Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. L'altro no. Suo compare, là accanto, il romano... Notte di sangue a Napoli, a perdere la vita un ragazzo di soli 15 anni, Ugo Russo, morto dopo un tentativo di rapina di un orologio a un carabiniere fuori servizio. Secondo una prima ricostruzione, il carabiniere, in auto con la fidanzata nella zona adiacente al lungomare, avrebbe reagito a una pistola puntata contro, sfoderando l'arma e sparando, uccidendo il 15enne. Due colpi hanno lasciato senza speranza il giovane, uno alla testa e uno al torace. Inutile la corsa all'ospedale Pellegrini. Alla notizia della morte, diverse persone hanno devastato il pronto soccorso, costringendolo alla chiusura temporanea. L'ipotesi di reato al momento è eccesso colposo di legittima difesa. La pistola usata per la rapina era finta, una riproduzione in metallo. Rosali! Sei un imbecille! Oggi potrai finalmente riprendere la tua lurida rubrica In quale città? Però sappi una cosa, che non ti permetteremo di fare le porcherie che hai fatto con Davide Bifolco. Questa volta ti faremo cacare sangue in un'aula di tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti faremo cacare sangue. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti faremo cacare sangue. Ti porteremo in tribunale. Sangue. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ti faremo cacare sangue. Ti porteremo in tribunale. Ti porteremo in tribunale. Rosali! Ti faremo cacare sangue. Vittorio Fenti, io sono di Napoli. Mi sento bene solo se mi faccio male. Bene in fondo che cos'è? Ognuno. L'altro no. Suo compare, là accanto, il romano, come si chiama? Luciano. Faccia di merda, è merda, è merda. Io sono della destra nazionale, L'unico mio errore è che mi sono drogato. Mi fai pena, mi fai pietà, ridicolo, patetico, nullo, nullo, nullo, nano. Crocialenzo! Caro David, ti parlo dalla zona infetta d'Italia, dalla zona isolata di questo nostro disgraziato paese. Lombardia, Veneto, forse anche Piemonte, Emilia-Romagna, tutto bloccato, tutto fermo. E chi cazzo si muove, amico mio? Ma chi si muove? Soltanto chi questa muove? Disgraziata trasmissione non viene chiusa ed è l'unico motivo di rammarico rispetto alle migliaia di persone che in questo momento, gli amici del nord cosiddetti, stanno soffrendo, chiusi nelle loro case, circondati per fortuna qualcuno dai loro affetti, se non quando sono divisi in diverse parti d'Italia. Un paese fermo, bloccato, che però ha paura ma combatte e resiste. Cosa c'entra questa trasmissione? E nonostante però? Tutto, il paese è bloccato al nord, le scuole questa trasmissione inspiegabilmente continua ad essere emessa, continua, dici, a infestare l'etere radiofonico. Usiamo termini precisi, è uno dei virus della contemporaneità. C'è il coronavirus, il COVID, come si chiama, no? Sì, il COVID. Sì. E c'è la Zanzara, questo programma radiofonico che dalle 18.35 presso a poco fino alle 20.49, 20.50, quando quell'urlo liberatorio italiani finalmente chiude una drammatica intanto giornata. Sgarbi continua a dire che il virus non esiste. Mettetevi il preservativo. Ecco, io gli voglio bene, però non è esattamente così. Sono stato così, con lui ieri sera ed era incazzato nero. Mi ha fatto io ho visto due cose terribili. Aspetta, mi ha fatto vedere un video in cui c'era una roba. Ti ho visto attaccare Asi Argento. Due cose molto brutte. Ma stava a San Diego. Ti ho visto attaccare Asi Argento. Ne parleremo fra poco. Dall'altra parte Asi Argento dare certi sberloni al tuo amico Vittorio Feltri, che era lì che barcollava. Certi sberloni. Certi sberloni gli ha dato. Tum tum, anche a te. Tum tum. Zitto. Tum tum. Stai zitto. Tum tum. Vi ha dato due sberle a voi. E poi ho visto il leader della Lega Matteo Salvini metterti in copertina sui suoi social network. Anche di questo parleremo. E elogiare le tue parole. Questo per me chiude il cerchio. Ma questo cosa vuol dire? Questo per me chiude il cerchio. Com'è? Ma cosa vuol dire? Com'è? Questo chiude il centro. Non ho capito. Chiude il centro. Cosa c'entro io? Ho detto sei una cosa condivisa da Salvini. Chi sei se ne frega? Sei stato smascherato. A me non capita mai. A me non capita mai. Comportatevi come prima, fate finta di nulla. È l'unico modo per sconfiggere queste teste di cazzo che vanno in giro col preservativo credendo o facendoci credere che ci sia il virus che non c'è. Detto questo, domani prossimo bollettino. Saluti a tutti E Conte, vai a casa. Conte, vai a casa. Conte, vai a casa. Tu e Speranza siete senza speranza. Siete due matti da legare. Mettetevi un preservativo sulla testa. Devo dire che ha preso questa posizione il professore, che il coronavirus non è un cazzo e bisogna continuare a vivere come prima, cosa che io regolarmente faccio. Io continuo a vivere esattamente, pur essendo nella zona infetta d'Italia, no? Continuo a vivere esattamente come prima. Il virus non attacca, il virus si schifa e se ne va da te. Senti perché sei talmente. Cruciani inappuntabile, scrive Matteo Salvini, leader della Lega. Cruciani inappuntabile. C'è qua, ci sono le prove. Ci sono le prove. Bollettino qua sullo stato della sanità in Italia, compiuto attraverso il giro che sto facendo in ogni zona, specialmente quelle contaminate. Ma che zero, arrivando che anche in Ticino, che confina con la Lombardia. Ma perché fa sto giro? Si capisce? Che cazzo le scuole in Emilia Romagna restano chiuse, non si capisce quale sia il rischio per un bambino in Emilia Romagna andare a scuola, forse è un rischio non andare, che rincoglionisca sentendo soltanto delle stupidaggini televisive. Nell'acqua santiera, dove c'è l'acqua benedetta, l'acqua santa, e non c'è più l'acqua, quindi evidentemente dubitavano che fosse santa. E qui c'è da dire, la Chiesa dubita di se stessa, se l'acqua è santa, e quindi casomai sana, non ammala, tolta l'acqua. Andiamo, amico mio, andiamo a Napoli. È inutile che mettiamo la sigletta, le cose, perché tanto lo sappiamo, no? Cioè, lo sappiamo dove poteva accadere questa cosa qui, no? Dove poteva accadere, secondo te? Semplicemente in quel posto lì, diciamo la verità. Un ragazzino di 15 anni che spara, che viene ucciso da un carabiniere con la pistola in mano, lui, questa pistola finta, ma il carabiniere non lo poteva sapere. Cercheremo di capire cosa è accaduto durante questa trasmissione, ma soprattutto quello che è accaduto dopo, dove un pronto soccorso è stato devastato da familiari ed amici del suddetto una tragedia nella tragedia di 15 una anni. Tragedia nella devastato tragedia. E hanno anche sparato contro una stazione di carabinieri a Napoli, non si sa chi, probabilmente persone che volevano tra virgolette vendicarsi. Ora, il padre, vi lascio giudicare a voi, poi intervenite come volete, quando volete. Il padre di questo ragazzo, che si chiama Ugo Russo, guarda, la mia posizione è molto chiara, caro Parenzo. Io sto con il carabiniere, senza dubbio. Se non sappiamo, ci sono delle indagini in corso, quindi non possiamo capire se c'è stato un eccesso nella allora, difesa. Allora, io sto con il carabiniere, credo alle sue parole. Bisogna stare con la giustizia. Credo alle sue parole. Vedi che è sbagliatissimo. No, credo alle parole del carabiniere, sarà sbagliatissimo. Io distinto credo alle parole del carabiniere che dice carabiniere è indagato intanto per omicidio volontario ed è un atto dovuto. Come ha spiegato la procura, è un atto dovuto in attesa dell'autopsia del povero ragazzo. Che cosa doveva però fare questo carabiniere? Gli hanno puntato una pistola alla tempia, che tu a 48 ore già dica che aveva ragione il carabiniere, che tu, io non so, probabilmente ha ragione il carabiniere, ma io dico la giustizia, l'unica parola che dico. Ma cosa? Ma grazie, le indagini, cazzo, la giustizia. Come fai tu in irresponsabile? Chi è che stava facendo la rapina? Ma tu non sei dalla parte di uno o dell'altro, devi essere dalla parte dello Stato, della giustizia. Sono dalla parte del carabiniere. Ti devi vergognare, tu hai izzi odio così. C'è un ragazzo di 15 anni. C'è una famiglia che piange un ladro, probabilmente, ma è un ragazzo. Sì, il ragazzo che è morto, no? Che cos'era? Un ladro era. Il professore maestro Vittorio Feltri dice che il ragazzo, anche se ha 15 anni, Feltri deve stare zitto. Feltri deve stare zitto, perché ultimamente dice solo stronzate. Si dovrebbe vergognare ad uscire di casa. Scrive, e ho Feltri, sentito quello che ha detto. Giù, si è già preso la querela da Asi Argento. Feltri, un bandito, per quanto adolescente, dovrebbe sapere che aggredire un cittadino comporta il rischio di subirne una reazione, le cui conseguenze, se sono tragiche, pace, amen. Non possiamo rimproverare il militare dell'arma perché non si è fatto sopraffare dal ragazzo. Chi viene aggredito ha il diritto di difendersi come può. Questo è il principio base. Uno, se ti puntano una pistola, cosa cazzo deve fare un carabiniere? Non è consentito nemmeno sparare al carabiniere. Ma nessuno ha detto la magistratura deve indagare e accertare come sono andate le cose. Sentiamo il padre di questo ragazzo. Sparargli nella coscia piuttosto e non alla capa, perché le hanno sparato forse in testa. Sì, amico mio, però non è che uno ha la freddezza in quel momento di decidere sparare alla coscia. Quello si è visto puntare molto probabilmente una pistola alla tempia, dai. Io appresso a mio figlio non ci stavo, ma qualsiasi cosa mio figlio ha fatto, qualsiasi cosa, a Nitta che ci ha puntato la pistola a tempo, io non lo so, può essere pure, ci ha puntato questa pistola a tempo, gli ha sparato un proiettile al petto, le ha mandato 3 metri in petto, mio figlio si è susuto, ti ha fatto la rapina, si è susuto e se ne sta fuggendo, tu guarda sta, sparare da una coscia o sparare da capo. Se non avete capito bene, lo vuoi arrestare? Sparagli nella coscia, non in testa, questo dice, no? Mio figlio si è alzato, sparagli nella coscia, ha fatto la rapina, lo vuoi fermare? Sparagli nella coscia, non in testa. Mio figlio è un criminale, però anche il carabiniere dice, forse non sentiamo. Buri di sapere, se figlio è criminale, va già a ricercare, figlio è criminale. Allora mio figlio è criminale, ma secondo proiettile, si dà sparare alle da capo, o criminale, è pure il suo carabiniere, non è mio figlio criminale. Che mio figlio non ha ucciso nessuno, un criminale è isso. Sì, ma io capisco, per carità, signor Vincenzo Russo, c'è una distinzione, quello fa il carabiniere, anche se era in quel momento non era in servizio, era in borghese, era con la fidanzata, stava subendo una rapina da parte di un signore 15enne insieme ad un complice 17enne, quello che è, però c'è una differenza, quello si difendeva e non è un criminale. Quell'altro assaltava, saliva. Non c'è dubbio, ma comunque deve esserci un processo ad accertare come sono andate le cose. Grazie al cazzo. Il fatto che tu oggi dica io sto col carabiniere, certo, vuol dire che sto col carabiniere, violare che qualunque tipo di regola. Tu stai con gli altri allora? No, tutt'altro, assolutamente no. Poi il padre dice che è stata una ragazzata. Senti, una ragazzata. Uno va con la pistola, anche se è una pistola giocattolo, per carità. Però comunque quello non si può sapere che è una pistola giocattolo. Non lo può sapere il carabiniere, no, è una ragazzata. Su cose, secondo me sono ragazzate, secondo me, che non voglio 15 anni, cioè, secondo me si va a fare una rapina, non darà quando si lapida la pistola, giusto? Cioè si fa una rapina, come è stato detto, si sono un professionista, la prima cosa che si ti faccio una rapina, la prima cosa che ne sai, ci preacquisisci, invece. Cioè, per me è una ragazzata. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cruz, un'informazione, ma I napoletani che sono andati a sfasciare il pronto soccorso, i parenti del ragazzo, poveraccio, che è morto. Ma poi li vanno a prendere per il coppino e li sbattono dentro o finisce tutto a papà? Oh, di mazzo. Oggi potrai finalmente riprendere la tua lurida rubrica In quale città? Però sappi una cosa, che non ti permetteremo di fare le porcherie che hai fatto con Davide Bifolco. Questa volta ti faremo cacare sangue in un'aula di tribunale. Ti porteremo in tribunale. Ragazzi, Sgarbi insiste, l'epidemia coronavirus in Italia non esiste, bisogna denunciare Conte per procurato allarme, il governo finge un'emergenza e una presa per il culo mondiale, con le misure contro il morbo ha distrutto la nostra economia e ci ha ridicolizzato davanti al mondo. Comunque invece è incredibile come alcuni giornali danno le notizie. Prendiamo un giornale a caso, Libero, diretto da Vittorio Feltri. Allora? Nella recensione in cui si parla dello scontro di ieri, non è Dara D'Urso con l'Asia Argento, il titolo di Libero è questo, aperte virgolette, scemo io, Feltri Dara D'Urso, agguato per santificare Asia Argento, horror in diretta TV. Horror in diretta TV? Ma come horror? Chi c'è di horror? Agguato per santificare. Ma lì sono giochi tra cioè, di hanno loro, fatto un agguato a Feltri? Ma no, ci ha dato volontariamente, Feltri dai. Ha scritto una strozzata perché ha dato della prostituta a Asia Argento. Ma quello se la vedranno i tribunali, e chi Asia se ne Argento frega, l'ha dai. Massacrato ricordandogli che gli ha pagato sentiamo, pure la causa. Allora, dai, sentiamo, sentiamo, ma questo che c'entra? Quelle sono delle vergogna tra di loro. Ma perché? Una vergogna, ma perché ti occupi delle cause che ha Feltri con Asia Argento? Ma che ne sai chi ha ragione e chi non ha ragione? Perché Feltri continuava a dire, beh, il tribunale, come si ha transato, ma non ha fatto nessuna transazione, ma non c'è, ma che dici, non sai un cazzo, dai. Ma come? Ma non c'è. Ma come? Ascolta quello che ha detto Asia. Quando io non ho definito la signora Asia prostituta, non mi permetterei l'ha fatto. Guardi, ce l'ho scritto qua, vabbè, se vuole però, leggo. Senta, io non perché l'ho mai io l'ho querelata. Io non l'ho mai. Lei l'ha detto prostituta. Io non l'ho mai interrotto. Ce l'ho qua nella querela. Lei l'ha detto alle Iene e l'ha detto. Ma già te ne vai. Alla trasmissione del Vittorio, già te ne vai, sono passati 5 minuti. Ma se non mi fate parlare, io me ne vado, cosa sto qui a fare il buffone? Sì, ma siediti e replica. Sì, quello basta che dire è. Ad Asia di farti ma parlare. Non di ma non puoi ma già. Ma dille di stare zitta, se no come faccio a replicare? Sì, ma non puoi già alzarti e andare. Ma mi rompo già le palle stare un'ora ad aspettare. Vabbè, dai, come un siediti, coglione là dai, fuori. Dai. Poi comincia non a cominci, parlare, dai, non, mi fa, non mi fate intervenire. Allora, mettiti vabbè. Qua. Non dire parolacce, ti prego, Vittorio. No, io dai. Adesso dico solo parolacce. Da, no, perché? Solo parolacce. Fai apposta per me? E anche qualche bestemmia. No, sì. Sì, sì, ti prego, ma perché? Wow. Ma ti sto antipatica stasera? Perché, perché? Restituisco i dispetti che mi fate. Chi mi invitate fa? Qua. Ma io ti ho fatto un dispetto, guarda, a me. Ma che colpa ne ho io? Non mi fai parlare, non ma che colpa ne ho io? Tu mi fai parlare. Chiama, allora... Allora ragazzi, a proposito della vicenda del carabiniere, vi devo dire una cosa. Ovviamente, quando io dico sto col carabiniere, mi riferisco alla versione del carabiniere, alla reazione del carabiniere. Se la reazione del carabiniere sarà giudicata eccessiva, cioè se ha fatto, se ha, come dire, giustiziato uno, non penso in alcun modo. Io dico se ha giustiziato quel ragazzo lì, morto, se l'ha rincorso, se lo ha rincorso e lo ha giustiziato, non posso dare ragione al carabiniere, mi pare evidente, no? Cioè, se stiamo alla reazione al fatto che uno ha una pistola puntata, reagisce, spara 2-3 colpi, fino a questo punto ci sto. Se poi si verrà a scoprire che uno è stato giustiziato, che quello per terra gli ha dato una pistolettata, allora il discorso è un altro. Il discorso è un altro, è evidente, no? Io sto col carabiniere perché finora le cose mi dicono che il carabiniere ha reagito ad una rapina. Non occorre stare con uno con l'altro. C'è un morto, stiamo commentando delle notizie. C'è un morto. Senti la zia, c'è un morto e uno può dire sto dalla parte della giustizia. Senti la zia, senti la zia, senti la zia. Ugo è un ragazzo buonissimo, un ragazzo che sapeva i problemi della famiglia, andava a lavorare sia il fruttivendolo sia il pittore, faceva di tutto, ma non rubava mio nipote, non rubava, non era ragazzo di questo. Mio fratello c'ha i precedenti, sì, ma del 2004, siamo nel 2020, sono 16 anni che mio fratello non fa più niente. E non è giusto che mio nipote deve pagare con la vita, per niente. Ma adesso si vogliono parare, vogliono dire conflitto a fuoco, vogliono dire questo, vogliono dire quello. Dici la verità, passati la mano per la coscienza. C'hai 28 anni, avrai anche tu dei figli. E anche a te possono succedere problemi economici e puoi fare qualche reato. Giorgio da Cantù, vai Giorgio. Giorgio. Cruciani, permettimi, perché non cambiamo l'orizzonte e guardiamo cosa hanno fatto al pronto soccorso in Napoletani? Allora, no, l'abbiamo detto. No, certo, quello dire, ma l'orizzonte è quello, come disse Bizzozzero, Napoli è una fogna, no? Perché di fatto bisogna prendere in considerazione che hanno distrutto il pronto soccorso. Dato ma che chi hanno? Noi napoletani, che vuol dire hanno? I napoletani. Quelli che hanno distrutto il pronto soccorso sono dei criminali, ma non i napoletani. A questo punto, chi ha di pronto soccorso non dà i servizi. Ma ecco il genio, ecco lo scemo, ecco il primo scemo del giorno. Non pagate, Parenzo, come te non pagano il dazio. Hai capito, Parenzo? Chi non paga il dazio? Non pagano il dazio. Non pagano un cazzo. Ma chi è sto imbecille? Ma come si permette? Giorgio, ma chi è sto imbecille? Come si permette? Giorgio Masocco, io sto dicendo una ma cosa. Chi è? Giorgio, che vuol dire? No, ma Masocco, sta dicendo... cos'è Masocco? È uno del nord, il grande nord. Ma è un grande imbecille, non il grande nord, il grande idiota. Per quello che dice, è il grande idiota, non il grande nord. Tu non hai argomenti. Sarebbe come dire che il grande nord è un branco di evasori fiscali. Sarebbe come di il grande nord lui sta è un dicendo, lui sta dicendo fiscali, che lui cosa sta, non vera. Lui sta dicendo a che a proposito di luoghi comuni. Lui sta dicendo che i napoletani, ma non solo i napoletani, sono un non gruppo. Non pagano mai, non pagano l'ENI, non pagano un cazzo. E allora tu sei un evasore fiscale, il grande nord è evasore fiscale. Carabinieri sparano per aria. A 15 anni non si sta in giro a luna di notte e a quel punto lì è bravo uno che in giro a luna di notte a 15 anni, cazzo, non lo so io. Cioè mi pare che l'educazione, il senso civico che qua. Cioè, a 15 anni anche a nord i ragazzini vanno in giro a 15 anni, non è che solo a Napoli. Allora, non esistono episodi di a Napoli, sai perché non c'è il coronavirus? Perché sennò dovrebbero presidiarla con l'esercito e non esistono più tutti i mercati, le porcherie. Ma il nord ha infestato, veramente il nord ha portato il coronavirus in giro? No, anche al sud c'è, però non fanno i tamponi che fanno al nord e per cui abbiamo 100 volte quindi è tutto infestato il sud. Fermo là, poveretto. La zanzara. Qui parla il conte Giancarlo Dunfin da Venezia. Dati i dati che sono arrivati e che noi siamo trattati, noi italiani, come dei pezzenti miserabili, untosi e pieni di febbre, di malattie, è giunta l'ora di dimostrare che il popolo italiano è uno solo, è unito. Comprate solo prodotti italiani e che vadano a fare in culo a quelli dell'Europa, dato che ci trattano come dei pezzenti. Solo prodotti italiani e facciamo vedere chi siamo, perché noi da mangiare e da godersi le nostre passeggiate e bei panorami viviamo, anzi usate anche meno benzina. E per chi ha i soldi alle Cayman, portateli via, perché non potrete più andarli via a prendere, quelli vi inculano anche i soldi. Perciò siate solidali col popolo italiano, solo cose italiane! Donne, è arrivato l'arrotino dell'ombrellaio. I'm in the business of misery, let's take it from the top. She's got a body like an hourglass, it's ticking like a clock. italiani, questo coronavirus è una benedizione. Io lavoro in pronto soccorso, deserto, posso lavorare, ragionare. Ah, grazie coronavirus, grazie. Perché ora in pronto soccorso viene solo chi ha bisogno. Coronavirus, avanti tutta! Ciao Beppe, la mia ragazza è appena tornata da Napoli e gli ho chiesto se potesse portarmi uno di quei pupazzetti, uno di quelle statuine di Natale che fanno loro, no? Con la tua raffigurazione. Inutile raccontarti la sequela di insulti che si è presa. Siamo al top. Beh. A Napoli! Ciao Crucia, qua praticamente sono andato a fare la visita all'ospedale in provincia di Napoli, non dico dove. S'hanno fregato pure la mucchina dagli erogatori. Mamma ma. E dove succedono queste cose? Edoardo da Torino, Edoardo da Torino, vai, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi Edoardo. Scusami, ma a me sentire parlare di ragazzate, di bravo ragazzo, mi sale la rabbia. Sì. Perché che, a 15 anni, se sei un bravo ragazzo, non vai a puntare la pistola contro, non un carabiniere, contro una persona. Sì. Questo qua ha avuto la sfiga di trovarsi una persona che era legittimamente armata e ha deciso legittimamente di difendere la sua vita. Punto. Cioè, non c'è più niente da dire. Edoardo, è chiaro che, come dice Parenzo, ci sono le indagini in corso. Se non ci fosse vuoi. Discussione, saremmo tutti d'accordo. Ma siccome i fatti sono andati come lei dice, ma c'è di mezzo un morto e soprattutto c'è di mezzo un'inchiesta giudiziaria, io sarei più prudente. Poi il giudizio su questo ragazzo lo possiamo dare in n modi. Possiamo, no? E non ci sono ma neanche giustificazioni. A me sta bene, Davide. Possiamo dire che aveva la pistola di plastica, ma possiamo anche dire che il carabiniere non poteva saperlo. Possiamo dire. Beh, quello mi pare evidente. Che il carabiniere sì, non lo sapesse, mi possiamo pare dire, abbastanza chiaro. Ho detto. Penso che ha riconosciuto la pistola. Ho detto, possiamo dire mille cose. Se ci vogliamo mettere, se l'inchiesta fosse già terminata e chiusa, potremmo trarne già la conclusione che, ad esempio, la pistola giocattolo era talmente evidente che non si poteva riconoscere altrimenti, cioè era talmente chiaro l'equivoco che il militare ha fatto il suo dovere. Qualcuno potrà invece dimostrare che la pistola è evidente, dai. Esatto, però siccome allora se tutto è evidente vuol allora dire che nulla parlare. È chiaro, allora non bisogna parlare, no, secondo me non bisogna dire io sto col carabiniere, certo che sto col perché carabiniere, uno sta con lo Stato, chi è quello che è stato assalito, nell'esercizio... chi è quello che è stato assalito, il carabiniere, perché no, ha subito la rapina, doveva su subire questo, la rapina, su non questo, c'è dubbio, no? Su allora, questo, nessuno lo mette in discussione, quello che è stato preso d'assalto è il carabiniere con la fidanzata, ok? D'accordo, poi solamente nel caso in cui questo carabiniere abbia giustiziato con la persona a terra, si è sparato 3-4 colpi per sentirsi più sicuro, perché c'era anche un complice, ha fatto bene secondo me, si è sparato 3-4 colpi, non secondo importa, me però. Ma quello è secondo me, certo, poi i giudici magari diranno un'altra cosa. Andrea da Pesaro, vai, Andrea da Pesaro, Andrea. Dimmi. Sì, a me dispiace essere diventato così a una certa età, però poi c'è Parento che evidentemente mi stimola. Dimmi. Io non solo sto col carabiniere, sì. Ma non mi dispiace affatto che sia stato ammazzato il rapinatore. Ma come si fa a dire una roba simile? Però, 15 anni. Comunque, come si fa però a dire una roba simile? A 15 anni, sì, ma no, certo, ma poi come 15 si fa anni, comunque a dire a non mi dispiace anni. Che sia stato ammazzato? Vabbè, non deve dire, mi sarebbe piaciuto sentire le stronzate. No, devi sentire le mie stronzate, brutto imbecille. Perché tu dovresti dire, mi avrebbe fatto più piacere assicurare questa persona dietro la giustizia, dietro le sbarre. Ti sei permesso di darmi del brutto imbecille? Ma perché lo sei? Vabbè, perché Andrea, lo sei? Dimmi, dai, Andrea, sei un poveretto. Che stavi dicendo? Uno che chiama per dire che è contento che un ladro è morto. Ma querelami quello che cazzo vuoi, idiota. Ma vaffanculo, dai, imbecille. Andrea sta dicendo una cosa. Andrea sta dicendo, no, ma poveretto, dai. Ma sei un poveretto. Ma lo fai parlare o no? Fallo parlare, no? Fallo parlare, Andrea, dimmi, dai. Ma imbecille chi? Ma chi ti conosce? Vabbè, lascia perdere, dai. Qui si usano queste parole, Andrea, dimmi, dai. Vabbè, vaffanculo Parenzo, va bene, dai. allora, vabbè, ma allora, idiota, sei un idiota se chiami, sei un idiota se chiami e dici che sei contento che quello è morto. È un idiota. È un idiota. Posso essere contento? È un idiota. Vabbè, Andrea, perché posso dirti perché che sei un idiota? Contento? Cerchiamo di capire perché scusa, sei contento. Scusa, Cruciani, come si fa a parlare con una specie di imbecille che vabbè, che dai, Andrea, sotto, forza, parla. Facile, dimmi no? Perché sei contento almeno, no? Dimmi ma perché sei contento. Cane, perché povero uno di meno, cane. Che magari uno di fra meno, un po' di anni avrebbe potuto fare di molto peggio, quindi uno di meno. Mi dispiace poi soprattutto per il carabiniere perché farà una bruttissima fine, visto come siamo messi in Italia. E mi viene in mente la bruttissima fine, la vita rovinata che ha fatto Placanica, che quello che si difese sono cose un po' diverse sono cose un po' diverse poi Placanica aveva anche dei suoi problemi successivamente, ha avuto anche dei suoi problemi diciamo no, psicologici no, vedi che è un idiota quella Andrea sta dicendo che di fronte al fatto che c'è un ladro uno che voleva fare non uno credo una ragazzata mediocre. Ma voleva commettere una rapina, poi magari scopriremo che è una ragazzata, è uno sciocco mediocre, si chiama tecnicamente un rapinatore che va a rapinare una persona e ci rimane secco, è la normalità, dice Andrea. Non mi pare una cosa così sconvolgente, dice Andrea. Ed è quello che dice il direttore Feltri, caro Parenzo. Il direttore Feltri dice che è la normalità, che se uno rapina. Sei un nano in minoranza. Vabbè, ma che c'entra adesso? Le caratteristiche fisiche, però, in questo momento non c'entrano nulla. A parte che nano è tutto da dimostrare. Ma Emiliano dalla provincia di Lodi, fermi tutti. Emiliano dalla provincia di Lodi. Dimmi Emiliano. Ciao Cruciani, ciao Davide. Abbraccio Emiliano, dimmi, ciao, da, dimmi. Da Castiglione d'Adda il solito dell'altro giorno. A Castiglione d'Adda stiamo parlando praticamente della zona rossa. Cuore della zona rossa. Cuore della zona rossa. Uno dei paesi diciamo nella lista nera tra virgolette, sì. No? Ormai lista nerissima. Rossa, sì, nerissima. Come prosegue la vita? Diciamo abbastanza male, dai, veramente qua stanno degenerando, questi soprusi che stanno facendo qua. Che soprusi? Che soprusi fanno? Quello che si sta sbagliando tutto, do ragione a Sgarbi, è tutta una gran cazzata, cioè non... oggi ti ho mandato le foto, avete visto le foto che stanno segnando qua nel mio paese di 4.000 abitanti, le case di quelli infetti con il marchio. Ecco, questo ho visto delle foto, sì, che cosa sono queste si foto? Sta degenerando troppo, si sta generando. Cioè, non ho capito, tu dici che stanno segnando le case delle persone infette? Le case dove c'è stato, perché c'è la corsa nei gruppi WhatsApp di dire dove si ferma l'ambulanza, dove hanno portato via il positivo, ognuno nasconde il positivo per non farlo sapere e quindi si segna, nessuno si guarda più. Tutto questo, questi soprusi, ma poi chi li pagherà? Hanno fatto dei danni psicosociali a questa comunità incredibili, umani. Ma come danni psicosociali? Non si rimonerà più, secondo me, Cruciani, quando potrò rimonare con la mascherina qua per 2 anni? Quando potrai? Cioè, limonare qua non si limonerà più per 2 anni perché hanno tutti vabbè, paura, capito, devi vedere cosa c'è. Tu dici che la cosa non è giustificata e sarebbe e bisognerebbe aprire la zona rossa, non mi pare però Emiliano, cioè no io per ora dico no, però se si è sbagliato nel fare questa zona qualcuno spiegami meglio, spiegami meglio questa cosa qua però dei segni che vengono lasciati sulle case o sui negozi, cioè tu stai dicendo che ci sono delle persone che segnano con della vernice nera? Esatto, sui negozi si hanno già fatto la denuncia qua in comune che c'era. Chi la ha notte, fatta la denuncia? Non so, gli esercenti sono già arrivati, ho saputo che cioè secondo te ci sono delle persone che girano no, ho saputo, girano già voci perché scappano dal positivo, nessuno, i positivi che ci sono qua, poi è un paese di 4.000 abitanti, siamo il primo, segnano le case. Cioè, segnano le case come facevano i nazisti ai tempi degli ebrei, esatto, diciamo. Come nel periodo della febbre spagnola che segnavano dove c'era la zona infetta, il cortile infetto, quindi se vai di lì, cioè per non avvicinarsi, vedrai chi chiamerà qualcuno dicendo che è anche corretto così, vedrai chi chiamerà qualcuno dicendo che è anche giusto così. Sembra una follia, vedrai che ci avrà anche secondo me, ovvio, ma finalmente qualcuno capirà cosa vuol dire essere discriminati. Ma sono tutti lobotomizzati, Davide, non capisce più niente. Questo vedrai che capirà. Vedrai che non lo mettiamo su altre cose, però capiranno che non capiranno, non c'entra niente. Qui è un'altra cosa. Emiliano ci sta raccontando che a Castiglione d'Adda, giusto? Sì, a giusto, Castiglione d'Adda ci sono 4.500 esatto, abitanti, che è nella zona rossa, ci sono delle persone che di notte segnano le case, i negozi con della vernice nera, delle persone presunte infette, perché poi non credo dove che dove c'è stato l'infetto, il negozio dove ne hanno trovati sì, passava quello che c'è stato tra i positivi, il cortile dove l'hanno portato in via. Modo che secondo diciamo volendo evita, prendere bene volendo, evita, volendo prendere questa cosa per un atto di paura, ma è una follia, cioè così la gente follia, cioè questo qua è il posto dove ci sono gli infetti, non avvicinate questo è il senso. Esatto, esatto, perché vino così, perché poi ti chiedono quando vado da un amico, ma tu sei stato da quello là, allora se hanno il parente che è stato infetto, non ti dico no, me lo porti in casa. Pazzesco. E si è creata questa fobia qua dentro, e non sarà un danno in mare. Che non... Cioè, tu dici, si è creata la fobia del vicino, la fobia di ma quello, certo, che è infettato. Dell'infetto, del positivo, così viene. Sì, però la questa è la colpa, però positivo. Scusa Emiliano, la colpa è del virus, cioè non è che la colpa è dei provvedimenti che sono stati presi, perché la zona... No, io dico per un raffreddore, come dice Sgarbi, inutilmente, io dico che sei ebola, ma effettivamente è un raffreddore del cazzo, qua siamo tutti positivi, non so, conosco positivi che non hanno niente e sono a casa liberamente, qua ci fanno infettare tutto in questo recinto che hanno tirato, e che senso ha? Fermola, grazie Emiliano, ciao, ciao, abbraccio, ciao, ciao. E adesso la borsa. La zanzara. Oh no, la Mukina è finita. Ci penso io, va. Ecco Mukina. Già la usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo, questo allarmismo che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. E la gente... Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. Già lo usavo. Insomma, mangiate le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. Va bene tutto, i bar che chiudono alle ore 18, le discoteche che non si possono aprire, le scuole chiuse, le mascherine, le quarantene, ma la messa in streaming, amico mio, la messa in streaming, la santa messa in streaming! Allora, caro Parenzo, ti voglio far sentire una cosa, una cosina che ti farà incazzare. Il signor chef Rubio. Mamma il mia, signor sì, chef sì. Rubio. Sì, so tutto, purtroppo. No, purtroppo sai tutto. Per questa volta ti devi incazzare. So perché tutto, non sì, è sì, possibile. Ma è un delirante. Non ti incazzare solamente adesso. Ti dovevi delirante. Incazzare. Quando attaccava Salvini eri lì che gongolavi. È un delirante. Quando ha attaccava sempre Salvini. Delirato, ha sempre però giustamente delirato. Tu utilizzi il criterio come il mio, peraltro, che è lo stesso criterio mio, che analizzi e giudichi le singole cose che vengono dette. E dunque, quando chef Rubio attaccava Salvini, per me Rubio ha sempre delirato. No, quando attaccava Salvini sempre. Gongolavi. Quando no, attaccava gongolavi, Salvini gongolavi. Era un delirio violento nei toni, no, già all'epoca con Salvini. Lo hai sempre, io non l'ho mai lo hai usato. Sempre appoggiato. No, lo hai, no, lo hai la sempre violenza appoggiato. Dei toni che lui utilizzava anche nei confronti di Salvini non mi sono mai piaciuti. Quindi figuriamoci. Vabbè, ma adesso lo stai dicendo. Adesso non vado a ripescare le trasmissioni che abbiamo fatto. Non ho detto ma sì. Comunque senti questo. È una persona totalmente ininfluente per fortuna. Vabbè, però siccome viene intervistato e comunque fa ecco, opinione, quello è il problema. Ma non viene cazzate, questa è una stronzata, ha il diritto di parlare come il problema come è che viene intervistato. Ma che c'entra problema. Adesso sei contrario all'intervista al chef Rubio? Ma le facciamo delirio, i peggiori sì, mostri noi, dai. Ma appunto, su. Appunto è un delirio. E che poi sei l'unica persona contraria alla sì. trasmissione in cui è. Sì, cioè, sì, una cosa, sì, sì, sì, una sì, cosa sì, pazzesca. Sì, sì. Senti Rubio, senti. Torni a fare TV? No, non ho la minima intenzione al momento, ma non per ripicca o peraltro. Ho dato questo veramente tutto me stesso in 7 anni, ho fatto passare tutti i messaggi che mi interessavano e ho dovuto combattere sempre per poterlo fare. Vabbè, questo un po' sti cazzi, se torno o non torno in TV, questa è della serie sti cazzi. Senti questa cosa qua. Il la cosa sorprendente è che ad oggi, dopo tanti mesi, ancora nessuno dei vertici che insomma filosionisti di Discovery si è fatto sentire riguardo il silenzio vergognoso che attorno al quale mi hanno lasciato, ha detto riguardo il mio addio. Comunque ci sono mail e messaggi WhatsApp che... Allora, lasciamo perdere il modo in cui si sono lasciati lui e Discovery, che sti grandissimi cazzi, sono a cazzi loro. Sono fatti loro, i vertici filosionisti di Discovery, cioè i vertici della televisione del gruppo Discovery, che è un grande gruppo editoriale naturalmente, che uno può giudicare come vuole a seconda dei prodotti che fa questo gruppo editoriale. Filosio, ma questo qua, ma che cos'ha nel cervello? Le pinne? Nulla. Ma che cos'hai nel cervello? Ah, l'unto di quello che usa per cucinare. L'unto è il bisunto di quello che usa per cucinare. Boicottare i prodotti israeliani, dice. Questa è una vecchia storia. Roba vecchia, vecchia. Puttanate vecchie, già fatte. Robe vecchie. Gli unici che possono fare qualcosa per la Palestina non sono i palestinesi, che stanno facendo il massimo, hanno fatto il massimo, ma siamo noi che possiamo provare a informare su ciò che realmente è stato, è e sarà purtroppo la situazione in quel territorio, boicottando anche quanto più possibile i prodotti di Israele. Adesso io non so se mandare questa cosa che ti farà incazzare moltissimo, perché tu non hai sentito tutto. Voglio dire, voglio solo dire a sto delirio di uomo qua che quando Israele, come sta facendo, produrrà il virus, il vaccino contro il coronavirus, se lo usa mi incazza. Se si dovesse. Io non voglia, attento perché poi parte la querela. Qualora si dovesse infettare del coronavirus, e io non glielo auguro, allo chef, non c'è dubbio. Se dovesse però poi utilizzare il vaccino che gli israeliani stanno facendo, a quel punto mi incazzo. No, si deve salvare, lo devi salvare che la beffa è ancora più atroce. No, ma non ho detto lo devi che salvare col prodotto israeliano. Ma ci mancherebbe, non ho detto che non glielo devono però fare, però mi incazzo. Però senti questa diversa cosa che ti farà incazzare moltissimo, questa cosa che è una cosa storica, assurda. Ma io questo qua, queste cose qui o le pensava prima e non le dicevo, oppure è andato adesso in Gaza, dove cazzo è andato, e gliel'hanno stillate, non so, ma senti questa cosa sull'olocausto che ti farà imbufalire questa cosa, già non l'hai sentita, perché forse l'hai già sentita. Sì, gira. Vogliamo ricordarci che non c'è stato solo l'olocausto, c'è stato anche l'olocausto degli armeni qualche anno prima, c'è stata la Nakba nel 48, ci sono stati tantissimi genocidi in giro per il mondo, però se voi ci fate caso, purtroppo siamo sempre portati a sospirare, a portare l'attenzione su un unico, che è quello che ha toccato poi alla fine gli ebrei, e non tutti gli ebrei, perché poi gli ebrei ricchi si sono venduti pure i fratelli, le sorelle, le famiglie, i vicini di casa che non potevano permettersi mazzette o vicinanze con il potere, sono andati a morire anche per questa causa, per lo Stato di Israele. Ma non ho capito, ma perché questo qua non gli levate via tutto? Perché non c'ha nulla, evidentemente. Gli ebrei ricchi si sono venduti. Gli ebrei ricchi non sono morti, lui lascia intendere. Quelli che potevano sono scappati all'estero. È molto semplice. Ma che infame è questo qua? Che ti devo dire? Silvio Salerno, vai Silvio. Silvio da Salerno. Buonasera. Dimmi Silvio. Poi dimmi. Mi segnalano giustamente che non so neanche cucinare, ma questo è un altro tema. Questo amico di Pescara, molto esperto di cucina, di cui non posso dire il nome. Vabbè. Mi dice poi non sa neanche cucinare. Infatti è chef per quando io dicevo presunto chef, tu mi attaccavi per esempio. Perché dici presunto chef? Presunto chef. Silvio da Salerno, dai su. Ma insomma, a me non me ne frega niente, cioè ha sempre detto cazzate secondo me, per cui dai, Silvio, dimmi. Ciao, buonasera, senti. Posso dire una cosa all'amico di Cantù? Sì, ma che c'è ancora? Che c'è ancora? Speriamo che il Seveso esonda. Adesso è il Seveso esonda. Ecco l'altro. Questo fa il pari col Vesuvio, pensaci tu, capito? Giorgio. Questo fa pari col Vesuvio, pensaci tu. Ma perché non ho capito perché vuoi che esondi? Io ho chiamato riguardo il fatto del carabiniere. Allora? Io sono una persona che ho 50 anni e precedente non ne ho. Se era successo a mio figlio, io al carabiniere lo accoppavo. In che senso la coppavi? Quando la coppavi? Io facevo la fine che ha fatto il ragazzo. Cioè lo andavi a prendere, dici? Certamente. Perché tu tu benissimo. Guarda che non dico che hanno fatto, non ci sono arrivati, però sono andati a devastare il pronto soccorso e hanno sparato. Ma dove chiama questo qua? Da Salerno, Silvio, dimmi. Scusami, se tu mi vuoi fermare, ok? Io non ti mi vuoi sparare nelle gambe, come dei papà, ma non spararmi in testa, perché spararmi in testa vuol dire che tu mi vuoi ammazzare. Ma come allora possiamo valutare, Silvio? Io 15 anni, io li ammazzo pure io. Scusami, Silvio, a parte come lo vai a cercare dopo questo qua? Tu dici se fossi... Non ti preoccupare. No, ci sono preoccupo modi molto e modi per trovarlo. Ma ci sono modi e modi, sai, Silvio. Ecco la vendetta. Ecco allora, la vendetta. Ti posso dire una cosa? Siamo fuori da solo. Cioè, per te ci vuole la vendetta, questo è il punto. Per me sì, ti posso dire una cosa? Dimmi. Ma come per me sì? Ma come si fa a dire per me sì e quell'altro dice sì, prego, scusami. Dimmi pure. Ci vuole vendere. Sì, prego, dimmi pure. Altra telefonata da Salerno. Cruciani, un cazzo! Sei un criminale potenziale pure tu, pronto? Silvio da Salerno. No, criminale. Sei un criminale. Parla con Parenzo, dice che sei un criminale perché dici che ci vuole la vendetta, ma non ha tutti i torti. Parenzo può pensare quello che vuole. Beh, Silvio, però scusami. A me non mi interessa. Ho capito, Silvio, però se uno dice io andrei a pizzicare il carabiniere. Ok, dimmi. Allora, io un anno fa ho fatto il crasoglio di un maresciallo dei carabinieri da Grosseto a Battivaglia. Che hai fatto? Ok, stiamo a sentire, gli ho dato una mano a scendere i mobili dal secondo piano. Beh, allora? Gli ho regalato un materasso matrimoniale. Vabbè, allora? Un venerdì sera mio figlio mi chiamò, mi disse: pa, vienimi a prendere, sono rimasto a piedi. Lo andai a prendere, mi dimenticai la patente a casa. Lui mi ha fermato, mi ha fatto i verbali di 42 euro. Vabbè, adesso, amico mio, prenditela con lui, che c'entra? Scusa. No, per lì. Allora, lo sai perché fanno le barzellette dei carabinieri? Ma lasciamo adesso, siamo arrivati alle barzellette dei carabinieri, cazzo! Ma Silvio, stai dicendo un'altra cosa gravissima, hai detto lascia perdere le barzellette, questo che ti ha fatto il verbale di 42 euro nonostante guarda, tu l'avessi aiutato. Guarda, ti dico questo, Silvio di Salerno, ti dico questo, un grande manager che viene dalle tue terre, che è un ragazzo giovane, dirò soltanto il nome di battesimo, si chiama Gianni. Lo conosce sempre, manager. Di grande, no, è il CEO di un'importante impresa che si occupa di cyber security. Ma che ne sa, Silvio? Gianni, che viene dalle tue terre. Mi dice: mamma mia, che figura di merda questi miei compaesani, sempre dalle caverne che ci sputtarono tutti. Grande prendere. Gianni, super CEO di una grande azienda. Silvio, scusa, ma chi se ne frega, sono Gianni. Giusto, questo è giusto, lui se ne fotte di questo Gianni. Allora per me la famiglia è uno che si è fatto il culo. Hai ammazzato mio figlio, io ti faccio piangere pure te. Ma Silvio, tu stai dicendo una cosa di una gravità enorme, stai dicendo che questo... Perché la gravità? Ma stai dicendo che bisogna andare a prendere questo carabiniere e ammazzarlo? Ma ti rendi conto della gravità delle cose che stai dicendo, Silvio? Ah, adesso glielo dici. Prima gli hai detto, ah sì, prego, dica pure della sua sentenza. Prima gli faccio dire le cose, poi certo, lo attacco, normale. Dica pure, ah io vorrei scogliarlo vivo. Ah, interessante, ma chi è da Roma? Certo, voglio capire se è vero. Come interessante, come interessante. Io non ti dico che il ragazzo ci ha torto, ok? Però ci sono modi e modi. Allora quella pezzo di merda del comandante della Sea-Watch che stava ammazzando i finanzieri, che bisogna fare a quello? Contro Greta adesso. C'entra? Ora c'entra no, pure c'entra Greta. Greta. È Carola quella, scusi non perché scusami, Carola Rackete, certo. Greta. Ecco, su Greta cosa pensa di Greta? Sentiamo. Ma Greta è una pedina. Ce l'ha per tutti. Una pedina, no, certo. Carola. No, ma tutte una pedina anche Greta. Greta o Carola? Però Silvio, torniamo adesso seriamente la cosa. Tu veramente pensi se fossi stato il padre, anzi se fossi il padre andresti a prendere... Senti, cioè, come si è comportato sto carabiniere per te? Come si è comportato sto carabiniere secondo te? Per me ha sbagliato. Per me ha sbagliato. Ha fatto la fine di quel poliziotto che ammazzò il tifoso della Lazio. Te lo ricordi ad Arezzo? Ma sì, me lo ricordo. Sì, che c'entra però? Scusa, ma sono cose diverse. Quello sta reagito. C'è una pistola puntata alla tempia. Tu puoi, allora io ti dico: puoi reagire. Sparami nelle gambe. Sì, la stai dicendo la stessa cosa. Tu per spararmi in testa, Crucia, vuol dire che mi volevi ammazzare. E poi uno di un carabiniere di 28 anni si, con la pistola in tasca si sente il padre eterno. Ma c'è ancora Giorgio o no? C'è ancora? Ma Socco? Sì, ci sono. Ecco l'altro involuto. Vuoi rispondere? È il momento degli involuti, confronto tra involuti. Ma cosa vuoi rispondere? È la differenza culturale tra il nord e il sud. Prendono pistole, ammazzano gente. Senti che ha diritto a tutelare la propria incolumità. È la differenza, no? Ma è la differenza che cagano per strada. Beh, e non per strada. Ma chi caga per strada? Sì. Ma chi è? Giorgio, che ha detto Giorgio, che è una fogna come la testa di Parenzo. Ma cosa che dica tu, signore? Allora, aspettami Silvio, che vuoi dire a Giorgio? Senti, dimmi. Che bel confronto ma tra due Italie. È di Cantù, sì. Digli dico sì a questo signore che io vado a scaricare a Montano Lucino e già tre volte mi hanno tentato la rapina, tre volte a Montano Lucino, diglielo sto coglione, tre Lucino, volte a Napoli ci sono i posti di blocco della Camorra, ma che cazzo mi viene a dire? Ma che stai dicendo? Napoli, è una zona prosigliata della Camorra, a Montano Lucino, a Montano Lucino, perché tu in estate vieni al mare al sud, tu il mare, che bello questo confronto nord sud, è ritornata la realtà nord sud, caro Parezzi, è ritornata la realtà nord sud. Scusami Giorgio, Giorgio tu consideri Silvio un involuto, tu consideri Silvio un sottosviluppato? Ma Silvio non so neanche chi sia, uno che dice, ma sono due sottosviluppati. Giorgio, Giorgio, l'avessi in tasca anche sto ragazzo, pare, non so se è una fake news, ma a mio fratello gli ha rubato il Rolex a Milano, erano napoletani in trasferta. Ma sono due involuti, è un confronto tra due involuti. Ma due involuti, ma i dati di fatto. Siete due involuti, tu e quell'altro di Salerno. Tutti i giorni e leggi quello che succede. L'unico napoletano serio è quello che ha sparato al suo napoletano questo, che gli aveva stuprato senti la figlia. Giorgio! Ma lo stupro è un napoletano che l'ha fatto una bambina. Ma che c'hanno? Ma questo è razzismo però nei confronti dei napoletani. Non è razzismo, è verità. Giorgio! Silvio, dimmi. Silvio, dimmi. Io vi sfido aspetta, aspetta, aprire tutti i giornali nazionali e leggere nomi e cognomi, non è razzismo. Ma tu stai dicendo che è una cosa congenita, c'è la minaccia come di questo signore. Allora fermo un attimo, Silvio, che vuoi dire a Giorgio? Silvio, se vuole gli do il mio numero, così ci sentiamo e gli voglio offrire il caffè, perché io accanto sì, eliminatevi a vicenda, giusto, è una buona idea questa. Eliminatevi, sparatevi a vicenda, è una bella idea questa, date il numero così si auto-eliminano a vicenda, due imbecilli, uno di Salerno, scusami, l'altro di Cantù. Giorgio, lo vuoi incontrare Silvio o no? Giorgio, in Brasile sono stati veneti, non c'è mafia. In Brasile? In Brasile solo veneti, non c'è mafia. In Nord America non c'è mafia, in Brasile in Brasile si ammazzano come bestie. Datemi una spiegazione. Sì, lo vuoi incontrare Silvio o no, Giorgio? Ma chi cazzo è sto qua? Ma chi è un signor nessuno? Ma chi lo conosce? Il signor nessuno. Ma io ti voglio pagare il caffè. Ti voglio offrire il caffè come uno del sud. Che mi offre il caffè di Sindona con dentro la stecchina. Vi conosco bene. Ti posso offrire pure una cena a base di pesce. Per bocca e per culo. Il pesce, mi metti il pesce palla, cazzo. Oh, mi conosco bene. Ti offro una cena a base di pesce per bocca e per il culo. Bello, bella conclusione. Ciao Silvio, ciao Giorgio, ciao. La realtà, caro Davide, la realtà è grandi format. Naturalmente, gente è tornato nord-sud. Non ti fa venire niente in mente, Carlo, questa cosa qua. Non ti fa venire niente in mente ritornare a vecchi format adesso che c'è il coronavirus e anche questo fatto di cronaca. Naturalmente i nostri uffici stanno realizzando, stanno scrivendo le nostre menti creative più eccellenti, stanno scrivendo il prossimo format che saremo in grado però di presentare nei prossimi giorni, un format vi dico subito rivoluzionario, mai visto prima. Naturalmente la morte, c'è la morte, naturalmente la violenza, la morte, violenza, morte, la cronaca, cioè, rapinatori veri e propri. Molto bene, naturalmente. Rapinatori con le GoPro, queste telecamere piccole, meravigliose, che la tecnica ci aiuta, sì, naturalmente. Certo. E dai, tutto reale, dai, sparatori, e tutti dicono fiction, no! Realtà, cioè veri rapinatori, cioè, la gente, prendere rapinatori, mi è venuta l'idea, prendere rapinatori dal carcere e metterli fuori, farli naturalmente uscire, sì. Mettigli naturalmente delle telecamere in testa, naturalmente, sì. E poi sguinzagliarli per le città, in particolare partire da Italia Viva, naturalmente, rapinatori, naturalmente, lo immagino già, molto bello, naturalmente, davanti alle porte della sede di Italia Viva di Renzi, dai che funziona. No! Allora, ragazzi, io però c'è l'ossessione proprio per Renzi, sì, incredibile. Chiamerei il padre del ragazzo ucciso, russo, si chiama Vincenzo. Però con delicatezza. Sì, non col tuo solito metodo. No, per carità. No, ma io figurati. Morto un figlio, ha fatto delle dichiarazioni. Oh, Vincenzo. Pronto? No, sono Cruciani, chiamo dalla radio. Buonasera. Ah. Buonasera. Innanzitutto condoglianze. Sì, la ringrazio. Condoglianze sentite, naturalmente. Perdere un figlio a 15 anni, di 15 anni, sì, è un dramma assoluto. Un dramma assoluto. Un dramma. Senta, volevo sapere una cosa io però da lei, le rubo solo 5 minuti. Ho sentito che lei ha parlato in maniera molto forte anche su questa vicenda, cioè in particolare ha detto delle cose sul carabiniere, no? Non è sul carabiniere, è sulla persona. Sì, cioè lei come, lei come la considera la vicenda? Perché lui dice di aver agito correttamente, di essere sereno. Va bene. Lui si fa la sua strada, la sua cosa. Io vado per la mia, sempre legalmente con la giustizia. No, ma questo non c'è dubbio. Ma secondo lei ha sbagliato il carabiniere allora? Però se io ti rispondo a questa domanda, poi te ne faccio una e tu mi rispondi. Certo che ti rispondo. Certo. Per me ha sbagliato, perché è stato sparato un proiettile al petto e sbalzato 4 metri avanti. Sì. Poi mio figlio se ne stava scappando, sì, e è stato esploso un proiettile dietro la nuca. Per me il primo proiettile, anche se è mortale, è da giustificare il carabiniere, perché il carabiniere si doveva difendere. Sì. Il secondo proiettile, per te lo doveva esplodere dietro la nuca, che l'ha ammazzato mio figlio. Questa è la domanda? Sì, questa è la domanda. Non lo so, la dinamica non lo so, la cioè, dinamica. Non lo so, mi dovevi rispondere. Cioè è stata un'esecuzione, secondo lei? Mi dovevi rispondere su questa cosa. No, ma io, Vincenzo. No, non mi puoi dire, non lo so, perché dai questa cosa qua? No, Vincenzo, io non lo so, perché veramente, veramente non lo so. Dunque, allora, la domanda è stata un'esecuzione, secondo lei? Non ti rispondo su questa cosa. Tu mi dovevi rispondere tu, se per me il primo proiettile che ha sparato il carabiniere non è giustificato, ha fatto buono. Ho capito. Il napoletano ha fatto sì, bene. No, ma se lo dici secondo napoletano lo capisco. Il secondo proiettile che è stato sparato da quello che stava scappando, per chi ha fatto bene? Non lo so. Non mi chiamare più. Aspetta. Non lo so. Lì come si fa? La cosa impressionante, adesso io, uno attacca il telefono semplicemente perché non gli do la risposta che vuole, cioè è incredibile questa cosa qua. Vabbè, per però... carità, no, bisogna capire, che facciamo, richiamiamo? Vabbè, una volta, dai, proviamo a richiamare una volta, dai. Non mi devi chiamare. No, ma non ti incazzare. Certo, ti sto facendo una domanda. Vincenzo, sto facendo una domanda. Ma sto facendo una domanda. Tu mi hai fatto un'altra domanda. Che c'entra? Mi hai fatto un'altra domanda. Non mi chiamare più. Perché era lì a fare questa rapina tuo figlio? Questo voglio capire, a 15 anni. Ma già basta. No, ma voglio capire il perché. Ti posso chiedere perché almeno questo. Tu sei il giudice. No, è una domanda. Tu sei il giudice. Non voglio rispondere. Ma oggi hai parlato su questo. Ma non ti voglio rispondere. Non sia io il giudice. Ma non certo che non sono il giudice, figuriamoci. Basta così, non insiste. No, scusami Vincenzo, sei tu che mi hai fatto una domanda. Siccome non ti ho risposto come vuoi tu, mi dici non ti chiamare più. Ma lui, perché tu? Ma non lo so, perché non so se la ricostruzione è questa. Se la ricostruzione è quella che fai tu, certo. Sei incazzato, dai, o dai una risposta o dai la risposta che vuole lui. Cioè lui ha fatto la sua ricostruzione. Anche questa non è la ricostruzione, è la ricostruzione di parte. Vabbè, come certo, la ricostruzione di parte, quella poi dei carabinieri. Poi c'è il dramma del padre, quella della sofferenza. Però non è che non gli dai una risposta. Gli devi dire per forza sì, ha sbagliato a sparare la seconda non volta. Non c'è dubbio, però trovo, vabbè, questo però, ma tutte le attenuanti del caso. Gli è morto il figlio, che deve dire? Ma la cosa inconcepibile non sei tanto tu, che sei un guitto radiofonico, un personaggio che viene culo, fuori va. Che viene fuori dai peggiori, che titilla i peggiori, sì, i peggiori istinti delle persone. Vabbè, allora? Ma è Salvini, il quale ha detto come te: io sto con il carabiniere. Beh, creando, certo, l'hashtag. Ma è normale. Prima ancora che normale, il processo abbia ma inizio. Ma normale, ma ragazzi, quasi altrimenti non si parla anche, di nulla, no? Quasi è dire che è anche sbagliato metterlo sotto indagine, cosa che è un atto dovuto. Vabbè, questi sono atti pericolosissimi, mettono ragazzi, in discussione la democrazia, lo stato di diritto. Il rapinatore, ma è un rapinatore. Politico, ex ministro dell'interno, che dice: io sto con il carabiniere prima che venga accertata la verità. Posso dirti che ma di che cosa scontato. Parliamo? Posso dirti che mi pare scontato. In questa Italia tutta detto, disastrata, ha sempre, però ha sempre detto di essere dalla parte di, figuriamoci se non diceva sono dalla ma parte ma è disastrata, è un paese disastrato ormai. Fermi tutti, fermi, è disastrato, è stato per altre cose. La Zanzara. Un invito a non avere paure irrazionali e anche a non avere comportamenti senza ragione. L'effetto virus sulle borse è drammatico. È stata la peggiore giornata di una settimana. Da dimenticare. Scusate, a tra poco. È drammatico. Da dimenticare di una settimana. Pronto, buonasera, sono Valentina e carissimo dottor Cruciani. Da quando mio marito ascolta la vostra trasmissione è diventato un porco, un grande porco. Io non ce la faccio più, sono in auto, mi vuole portare in camporella. Io non ne posso più, smettete di rompere i coglioni con questa trasmissione. Allora è nato l'hashtag io sto col carabiniere, non credo che sia un'operazione di Salvini, però è nata abbastanza, sì, è spontaneamente, nata, credo attraverso l'operazione degli uomini di Morisi, quindi i vari Cruciani, i vari Cruciani al servizio permanente. Guarda, della propaganda, io ti posso dire che io non ho mai creato un hashtag e mai lo creerò, forse sul calcio. Tu sei al servizio permanente di quella propaganda, ma non quindi dire puttanate inaudite, questa è l'unica trasmissione anche in cui i conduttori si insultano anche tra di loro. Ma come, anche postato un qualcosa dicendo mettiamo, bravo Cruciani, mettiamo, sono d'accordo con Cruciani, mettiamo quella cosa lì che ha postato Salvini, ha ripostato il profilo ufficiale di Salvini o della Lega. Adesso a me ricordo. Nessun politico ha mai ma postato una cosa che ho ma detto, non è che l'ho voluto fortuna. Io l'hanno fatto loro, dunque a me che me ne frega. Nessuno mi ha detto anche sono se l'avesse fatto Parenzo. Il PD è la stessa nessuno. Cosa ma nessuno sì, ma in realtà poi in nessuno, a parte che non è vero per fortuna, perché è successo molte volte sul tuo libro, moltissime volte, ah, la Bonino no. E altri, anche fatti. Il PD e anche il PD, quelli erano fatti, ma che opinioni, ma non dire cazzate, non opinioni. Sentiamo la cosa su cui sono stato, differenza tra fatti e opinioni. Sono ragazzo. Stato ripreso, ma non dire minchiate, le tue fatti, non dire puttanate con libro fatti, di opinione. Numeri, non dire puttanate. Numeri, fatti, ma non opinioni. Dire puttanate inaudite, senti. Tu Giuseppe in questa fase limiteresti ulteriormente gli sbarchi? Ma io non li vorrei proprio mai gli sbarchi, a prescindere da questa fase qua. Fosse per me farei blocco navale con le mitragliette, senza sparare ovviamente, ma con un blocco navale fortissimo, perché io proprio gli sbarchi sono una di quelle cose che l'immigrazione clandestina la combatterei con metodi durissimi. Questa hanno ritwittato, l'onorevole Cruciani al servizio permanente. Vai l'onorevole cagare, onorevole Cruciani, a lei la parola. Uguale. Ma perché uno non può essere contro l'immigrazione uguale. Clandestina, che deve essere per forza inquadrato per in un blocco politico. Ma mi pare che ti dai, hanno inquadrato su. Loro benissimo, anche ti hanno ritwittato. Anche Minniti ha le stesse posizioni mie, no, praticamente. Io tu so scherzi? Uguale identico. Ma non bestemmiare, peggio, ma forse. Minniti forse mai peggio. Parlerebbe di navi armate, di cose, ma figuriamoci. Rispetto per Minniti. Rispetto per me. Allora, Minniti. L'hashtag io sto col carabiniere. Rapini, questo ti becchi. Questa è la sostanza del messaggio. E c'è chi propone addirittura una medaglia. Una medaglia per il carabiniere. Quando scegli come mestiere la professione del rapinatore, ti becchi tutte le conseguenze che comportano. Questo è il punto, ragazzi. Questo, i miei figli a 15 anni. Scrive uno: i miei figli a 15 anni, alle 23, erano a casa. Dice un altro: se il loro figlio è morto è colpa loro. Beh, questo è un altro discorso. Dove erano i genitori? Sentiamo Borrelli, va, quello di Napoli, il consigliere regionale. Senti che più o meno ha questa posizione, eh? Più o meno, anzi forse peggio, senti. Perché questi soggetti mano a mano si prenderanno tutto. Fanno 7-8 figli a testa che diventano mediamente purtroppo tutti delinquenti. Dobbiamo metterci in testa che loro non hanno nessuna responsabilità genitoriale. Loro fanno figli che scaricano sulla società e non si assumono neanche la responsabilità di dargli una minima educazione. È sì, non so a cosa facesse riferimento. Faceva riferimento evidentemente a realtà criminale di Napoli, a realtà delle periferie di Napoli, forse a quella famiglia stessa, a quella del rapinatore. Non lo so, ce n'è un altro di Borrelli, mi sembra. Le uniche vittime di questa vicenda sono il ragazzo e il carabiniere. Due tragedie, perché io non credo che il carabiniere volesse uccidere quel ragazzino, ma si è visto in pericolo di vita e si è difeso. Forse è ceduto, ma si è difeso e non poteva fare altro, doveva difendersi. I veri colpevoli sono i genitori, che sono venuti qua con altri comparielli, altri delinquenti, altri camorristi, e sono venuti a sfasciare l'ospedale di tutti, mettendo a rischio altre vite umane. Ragazzi, voglio abbracciare Borrelli, che ha ragione, ha perfettamente ragione. Dove erano i parenti? Non è che sono andati a compiangere, sono andati a distruggere, pare, alcuni parenti, pare, alcuni. Atto vandalico, amici, di una violenza inaudita. A distruggere, certo, il pronto soccorso. Gravissimo. Cosa cazzo c'entra, certo, il pronto soccorso? Individuateli e allora di queste persone stiamo parlando. No, individuateli e arrestateli subito, certo. Tanto in Francia 191 casi, 61 più di ieri in Francia. Vedi, comincia a crescere anche la Francia. Hanno chiuso il Louvre, ai francesi non dici niente ovviamente delle misure della chiusura dei musei in Francia, perché te ne freghi, sto sei un populista. Sto in Italia, qui lui sta in Italia, lui se ne frega, sta in Italia, me ne frega niente, sto in Italia e non me ne frega niente. Il mondo è globalizzato, ma loro se ne fregano. Questi superficiali qua, sovranisti, se ne fregano, perché loro stanno in Italia, sono anche ricchi peraltro. Sono anche, vanno al Baretto Baglioni lì a mangiare 300 euro a pasto e se ne fottono di voi, cari ascoltatori, e soprattutto voi che chiamate. Raffaele da Roma, vai, Raffaele da Roma. Raffaele, un altro mi scrive: la cosa triste è che un ragazzo di 15 anni, anziché stare a casa a fare i compiti, al cinema con gli amici o giocare alla play, va in giro a rapinare la gente puntando pistola alle tempie. Certo. La tristezza è un certo tipo di tessuto sociale. Un genitore si deve interrogare su come alleva un figlio. Il ragazzo ha scelto di fare un'azione estremamente pericolosa, d'azione violenta, è molto probabile che segua reazione altrettanto violenta. Ragione Borrelli. Ragazzi, questa è la realtà. È inutile che il padre sbraita. Posso capire il momento, hanno ucciso il figlio, d'accordo, ma ha parlato a tutte le televisioni, ha parlato ai siti. Comunque siamo stati legittimati a chiamare sintesi, il padre. La sintesi aveva già parlato, siamo sì, stati quello, anche molto delicati. Altro, molto delicati. Ho fatto altro, una domanda, lui mi ha fatto un'altra domanda e poi, siccome non gli ho risposto come voleva, mi ha attaccato il telefono. Vabbè, ci sta quello, ci non sta anche la seconda telefonata. Comunque, la sintesi punto più bella l'ha fatta, la fa Cristiano, che è un autore televisivo, che mi scrive: comunque, se la politica parla alla pancia del paese, la zanzara ne attira la parte più sensibile in difesa. I coglioni. Sì, vabbè, Raffaele da Roma. Buonasera a tutti. Io volevo dire che sono napoletano, sono cresciuto a San Giovanni Antiduccio Barra negli anni '80, dove c'era la guerra dei Cutuliani. Io, come tutti gli altri amici miei, siamo persone per bene. Non sono tutti delinquenti, ecco, no, detto, ma chi lo dice? Il deficiente di Milano, che ha detto che i napoletani sono andati a produrre. Ma quello poveretto Masoccoli, ecco. E anche l'altro deficiente, certo, non sono andati da Bergamo Alta, diciamo, no? Dove abita, no, dove però, abita il direttorissimo, però, ma non però, sono andati da Bergamo Alta lì, diciamo. Lui ha usato, non è che la si vedono napoletani. Sì, d'accordo, ha sbagliato, è una generalizzazione, Raffaele, però nello stesso tempo non si sono in un ospedale di Bergamo, non le abbiamo viste queste cose, no? Magari vivete di generalizzazioni, esatto, come Zaia sui cinesi, che poi ha chiesto scusa. Generalizzazioni, voi vivete di generalizzazioni. Io sto dicendo che dopo un minuto che è successo questo fatto, avete puntato tutti quanti, anche sui social, il dito dove è più facile puntarlo, cioè sul carabiniere, e nessuno si è soffermato su quella forcata che hanno fatto a tutti, anche sui social. Io vado dicendo sui social, nessuno attacca il carabiniere, amico mio, una minoranza di persone attacca il carabiniere. Allora sui social non ci girate, io ci sto, e per fortuna non sono drogato di social. Io manco sono drogato, però io ho visto tutte queste polemiche su dove puntare più facile il dito, ma nessuno si è soffermato dicendo che quegli genitori, i parenti, invece di andarsi a domandare che cosa è successo e come è successo, hanno fatto la prima cosa, si sono vendicati, cioè andare all'ospedale a fare tutto quello. Vendicati macello. Poi di cosa? Che cazzo c'entra quelli dell'ospedale con la morte del ragazzo? No, cioè, appunto, al limite, per un delinquente, per un delinquente ha più senso andare a sparare come hanno fatto alla caserma dei carabinieri. Atto delinquenziale che però, secondo una logica delinquenziale, ha più senso. Se tu vai a sparare come hanno fatto, ovviamente sparare sulle sulle mura esterne a una, a ma è una, una follia, ma non certo che è una follia, però io. Quello ha più senso per un delinquente, per un delinquente ha più senso, l'ospedale non ha senso. Ma no, ma quello dobbiamo discutere noi, non sul fatto cosa è successo, perché fino a parola contraria il carabiniere è una persona per bene e quello era un rapinatore, certo, poi dopo il giudice vedrà cosa succederà. Sì, ma invece proprio se dovesse, ripeto, c'è una quello diventerà un pizzaiolo o chiameranno pizzaiolo e il carabiniere lo chiameranno delinquente. Nei prossimi giorni succederà così. Non credo, invece, speriamo, non di no, speriamo di no, amico mio, speriamo di no. Natale da Catania. Io di no. Natale da Catania. Pronto? Natale, buonasera. Dimmi. Io sono una guardia giurata da 32 anni. Sì. E quindi sì, qualcosa ne capisco per quanto riguarda le pistole, eccetera. Sì, sì. Allora, innanzitutto una premessa, le condoglianze alla famiglia. Vabbè, perché quello mi pare abbastanza chiaro, dimmi. Delle tragedie, diciamo, dovete mettere in conto che chi fa questo lavoro esce da casa già che ha paura, ha paura di quello che possa accadere e quando si è di notte e nei posti al buio e certo, si è soli, perché a volte si è soli. Allora, quindi il ragazzo ha avuto paura, lo scarrellamento, per chi se ne intende un po' di armi, sta a significare che sto mettendo il coppo in canna. Dall'altro lato il carabiniere si sarà cagato addosso, cioè questo mi sta ammazzando. La prima reazione a freddo, perché tu lì non pensi. Certo, tu ma uno spari, che certo, tu li spari e basta. Tra l'altro era anche in borghese, purtroppo, era anche fuori adesso, servizio. Stiamo no, la considerazione Natale, no, certo, Natale, la Consi infatti aveva la pistola. La considerazione qual è adesso che si fa? Diciamo che il padre dice che la morte del ragazzo è dovuta ai colpi successivi sparati, diciamo, dal carabiniere. Allora, bisogna vedere se questi colpi successivi erano colpi necessari, appunto, per fermarlo oppure no. Allora, però sai, si entra in un cosa, campo che è molto relativo, perché aspetta, che... scusa un attimo Natale, prego, poi ti do subito la parola. Il punto è fondamentale. Se uno pensa che sia stato un'esecuzione, questo nessuno cozza, pensa che questo cozza però col fatto, solo la famiglia forse lo può pensare, ma neanche, no, ma nessuno lo pensa. Fammi finire un attimo. Allora, se uno pensa che sia stata un'esecuzione, attribuisce al carabiniere, questa è una mia ipotesi ovviamente, no? Non suffragata da nulla, però psicologicamente, se uno pensa che sia stata una esecuzione, attribuisce al carabiniere una freddezza che il carabiniere non sembra abbia avuto, perché il carabiniere ha reagito prontamente, in maniera anche, se vuoi, istintiva, alla minaccia della pistola puntata alla tempia. Dunque ha reagito in maniera istintiva, non certo freddamente. Ha risposto sparando una prima volta. Io penso che lui abbia sparato successivamente perché si sentiva ancora in pericolo, giusto Natale? Natale? Mi ho letto da qualche parte che per fermare una persona che tu pensi che ti stia facendo male non devi mai sparare un solo colpo, sono delle brevi raffiche da 2-3 colpi. Ma certo, pure secondo me è andata così, però magari allora, mi posso sbagliare. Ma dico, qua stiamo parlando, giusto, stiamo facendo... Sì, c'è da dire una cosa, adesso sarò un po' brutale, ma è la realtà. Sì. Chi fa l'elettricista mette in conto che sopra un palo prende un colpo di... corrente ancora questa storia. Ma no, è la realtà, Natale. Parenzo, scusami, io ho 3 figli, uno di 22 anni, non è che se ne va in giro a fare le rapine, Rolex eccetera, è a casa che fa concorsi, che cerca di sbarcare i lunari e poi dobbiamo essere buoni su qualunque cosa, e allora va bene. No, ma voglio dire, il padre stesso dice in maniera anche piuttosto... Mi dispiace, quello sarà impazzito dal dolore, quindi qualunque cosa dica va bene così, ma per carità, ci mancherebbe, ha perso un figlio quello. Però Natale giustamente dice, se uno fa il rapinatore, si, come dire, anche se ha 15 anni, poi a 15 anni si può... Ci sta, gli ha detto male, gli ha detto male, purtroppo ha incrociato un carabiniere con la pistola. È andato a finire male, purtroppo per lui, purtroppo per lui ha incrociato uno con la pistola, perché nel 99% dei casi incroci uno che non ha la pistola, invece ha incrociato il carabiniere. Ascoltami Giuseppe, e poi chiudo, perché questa cosa mi ha disturbato molto, sono cose che turbano molto le persone. Vabbè, soprattutto questo, perché fa la guardia giurata. Sì, ma insomma, questo carabiniere più avanti, quando sarà più grande, quella scena non la dimenticherà mai. Per lui avrà sempre questo rimorso. Dice, ma io e poi attenzione, questo carabiniere non so se dove verrà mandato, se potrà continuare a fare il carabiniere, perché caso, sai... Sono sempre rogne, purtroppo sono sempre rogne. La famiglia, nella famiglia di questo ragazzo di 15 anni, non direttamente il padre, ma credo che nella famiglia ci sia qualche passato non certo, non totalmente purtroppo limpido. Buonasera, dottoressa. Ciao, chi stai salutando? Un attimo lì. Chi? Un attimo, Berlini. Chi stai salutando? Vai, i suoi comodi, noi siamo qui a aspettare. Scusa, i suoi comodi. Scusate, io sono in servizio. Ma chi stai salutando, Natà? Ho preso il servizio da poco, sono in una struttura di ospedale. Ah, in ospedale, in ospedale. Quindi chiama in servizio, scusa. Ha preso il servizio. Ma figurati, Parenzo, se uno può chiamare se c'è a questo. Allora, ciao Natale, ciao, una buona serata. Ciao. La Zanzara. Ragazzi, ma il trans di Codogno era fantastico. Possiamo metterlo come interventista fisso della Zanzara. Meno Gottardo, più trans di Codogno. Ripeto, meno Gottardo, più trans di Codogno. A te ti piace, cazzo? Allora, mi ha scritto Michele da Bologna, che ha tre figli, Francesco di 23 anni, ragioniere, barista in un bar del centro a Bologna, Riccardo di 21, appena compiuti, iscritto ad Agraria, tre esami già dati, Nicola 15 anni, scuola alberghiera. Ho chiesto ai miei ragazzi, ai miei figli, cosa ne pensavano di questa vicenda di Napoli, sono inorriditi, non sanno nemmeno che cosa significa andare in giro con una pistola finta. E se quel deficiente andava al cinema a mangiare un gelato, a 16 anni non moriva. Questa è la sostanza, cioè questo è il punto di cui parlava prima Borrelli, e questa è la cosa fondamentale che pensano tutti. A 15 anni però, sai, gli ambienti sono gli ambienti. Cristina da Zurigo, fermo, intanto abbiamo, fermo lì, grande senatore Lello Ciampolillo. Senatore Lello Ciampolillo, ex Five Stars. Siete voi grandi. Allora, senatore Lello Ciampolillo, ex 5 Stelle, che è passato al gruppo misto, che ha proposto una Ciampolillo. Ha proposto una cosa per il coronavirus, che può alleviare le sofferenze, chiamiamole così, o comunque la situazione di chi è malato. Voglio capire di cosa si tratta. Evviva. Cristina da Zurigo, prima. Cristina, dimmi. Ciao Giuseppe, shalom David, volevo parlare del tema masturbazione. Allora, shalom, scusami Cristina, tu dici shalom semplicemente perché sei ebrea anche tu, immagino. Appartengo alla stessa azienda di David. Molto bene, dimmi tutto. Vuoi parlare di masturbazione? Allora, volevo ricollegarmi a quello che avete detto venerdì, che alcune ragazze dicono io non mi masturbo perché in realtà si vergognano, invece io volevo dire che io non pratico perché in realtà io non godo, non ho capito, scusa, stai dicendo che mentre ti masturbi non raggiungi l'orgasmo? Cioè ci provi mai, ma non l'ho mai raggiunto, mai. E dunque hai interrotto la pratica, mi sembra di capire, o no? Oppure ci provi ogni tanto? In alcuni momenti dove ho delle pulsioni e provo a masturbarmi, e comunque dopo un po' mi fermo perché io non godo. Non vieni. No, non e invece vengo, quando non sono mai venuta. E invece quando lo fa qualcun altro? È una notizia incredibile. Proprio. Quando lo fa qualcun altro, sì. Infatti ho sempre bisogno di terzi, di altre persone. Terzi, secondi, insomma, no? Terzi. Cioè, esatto, terzi, secondi, oltre, esatto. Terzi oltre te e la tua mano, forse. Cioè, terzi in questo senso. Però scusami un attimo, non ho capito, tu sei fidanzata, sei sposata, fidanzata? Sì, sono fidanzata. Cioè, per cui la notizia è questa, io ho interrotto la pratica di autoerotismo, va bene. Che viene da Zurigo, per il semplice motivo che da sola non riesco a venire, questo è un mistero. Esatto. Poi. E invece riesci a raggiungere l'orgasmo semplicemente grazie al maschio o alla donna, in questo caso. Scusami, ma secondo te c'è una problematica che riguarda, cioè c'è un motivo, ne hai parlato con qualcuno o semplicemente te ne fotti? Perché il fatto che non riesci a venire da soli, però è strano non riuscire a venire da soli, perché di solito, caro Parenzo, uno si conosce meglio, no? Uno si conosce meglio. Una conversazione. No, è un dibattito interessante, se tu ci pensi, è molto interessante, perché spesso è esattamente il contrario. Cioè, esatto, l'autoerotismo porta sicuramente all'orgasmo perché uno si conosce meglio. Al contrario, esatto, quando ti tocca qualcun altro, quando lo fai con qualcun altro, puoi anche non arrivare all'orgasmo perché gli altri non sono capaci di toccare i punti sensibili. Sbaglio o non sbaglio? Dico una cazzata, Cristina. Sai, io più o meno di queste cose mi intendo. Esattamente. Per cui tu sei un caso eccezionale, quasi da studiare da questo punto di vista. Esatto. esatto. E io sono, quando dico alle mie amiche io non mi masturbo perché non godo, le mie amiche rimangono giustamente sconvolte. Ma infatti secondo me scusa, secondo me devi praticare di più. Adesso non so perché hai interrotto, ma tu per quanto tempo ci hai provato? Per tanto tempo, cioè tu non sei mai Vabbè, venuta da sola? Senza tutta, io ho 30 anni, tutta l'adolescenza ci ho provata, quindi cioè tu non sei mai venuta da sola? Non sei mai venuta da sola? Mai, mai. Il primo orgasmo l'ho raggiunto tardissimo, a 22 anni. Beh, quando ma ho trovato il primo vero uomo che mi ha scopata a dovere. Ma scusa, ma non ho capito bene. Scusami Cristina, però tu mi stai dicendo anche un'altra cosa, che tu l'hai fatto per la prima volta a 22 anni o no, o l'avevi già fatto prima? No. Prima uno che ti ha scopato bene. Uno che ti ha scopato bene, ho capito. Cioè tu sei venuta per la prima volta a 22 anni, questo è il punto. Il primo. Quando ho trovato qualcuno che... Ragazzi, però io posso dire che... Posso dirti, caro Parezzo, che ormai questo refren è viva. E anche il senatore Ciampolino lo sta ascoltando con molto sarà felice con una... David, non ti scandalizzare, ma se uno ha raggiunto l'orgasmo per la prima volta in 22 anni saranno affari suoi. E no? Fate fare un'interrogazione parlamentare a Ciampolillo su tutti gli uomini che ha avuto prima, che vi devo dire ragazzi miei, non lo so io, fate voi. Ciao Cristina, ciao cara, ciao. Senatore, Eccomi. Sono cose molto interessanti su cui il Senato si dovrebbe soffermare, secondo me, su cui il Senato della Repubblica si dovrebbe interrogare. Vabbè, il benessere della persona, quello, esatto, giusto, al primo giusto. Posto. A proposito di benessere, lei propone l'utilizzazione a proposito di benessere, possiamo dire che è veramente una vergogna sbattere in galera Cecchi Gori a 78 anni? Ma quello che ne sai tu delle motivazioni, visto dai, che si parla su di benessere, ma non è in galera, il senatore Ciampolillo. Ma non è in galera. Beh, perché sta male. Torniamo sull'argomento. Allora, voglio capire una cosa, scusami. Tu proponi l'utilizzazione della cannabis per chi è colpito da coronavirus. Cosa significa esattamente? Specifichiamo, della cannabis non credo che proponi fatevi le canne. Mi sembra abbastanza chiaro. No, assolutamente no. Ricordiamo brevemente che la cannabis dal 2007 si vende in farmacia. Cannabis terapeutica, diciamo. Cannabis terapeutica. Ma non dappertutto però, non credo dappertutto in farmacia, credo. In Italia si vende nelle in tutte le farmacie, quasi tutte le farmacie galeniche. Quindi, vabbè, allora tu proponi che cosa? Allora, io propongo, siccome soprattutto le morti avvengono, o comunque chi soffre in questo momento soffre di infezione alle vie respiratorie, quindi proprio parliamo di polmonite, sì. Allora la vaporizzazione attraverso quindi la cannabis terapeutica, che è il fiore, che viene direttamente inalata per il tramite di un presidio medico, che è un apparecchio che è detto vaporizzatore, tenendo conto che la cannabis di per sé è comunque un antivirale, è un antinfiammatorio molto potente, sì. Potentissimo antinfiammatorio, e soprattutto fa salire immediatamente le difese immunitarie. Però scusami, tu mi stai dicendo, non lo propone nessuno, ci sarà un motivo. Tu mi stai dicendo, i medici, gli ospedali dovrebbero vaporizzare la cannabis terapeutica e farla inalare ai malati, perché può dare un vantaggio. Però oggettivamente non mi sembra che il ministro possa accogliere questa tua richiesta. Ti faccio un esempio. Io ti parlo proprio di mio padre, che aveva una polmonite, e addirittura all'ospedale di Bari in pneumologia l'avevano diagnosticata come metastasi ai polmoni, addirittura. Vabbè, allora... avevano fatto anche un errore, e la polmonite, mio padre è guarito dalla polmonite utilizzando, vaporizzando la cannabis terapeutica. Vabbè, adesso la questo cannabis... qua. Tu stai dicendo che si può guarire addirittura dalla polmonite con la cannabis terapeutica. Ma mai pensato? È una possibilità. Io ho suggerito al ministro Speranza di valutare questa opportunità. La cannabis medica utilizzata in vaporizzazione, quindi quando arriva direttamente la cannabis nei polmoni, fa sempre bene in qualunque occasione, non c'è efficace, dubbio. La cannabis medica è efficace per le infezioni delle vie respiratorie. Adesso io posso dirti una cosa, caro Lello, io sai che va benissimo, secondo me tu sei uno che vuole la legalizzazione della marijuana, non c'entra niente, però io sono d'accordissimo. La cannabis medica è un farmaco che viene venduto in farmacia. No, d'accordo, però se avesse queste cose così miracolose che tu dici, questi grandi effetti miracolosi, io immagino che in queste ore ci sarebbe, come dire, una corsa degli ospedali all'acquisto e all'utilizzazione della cannabis terapeutica però, per vaporizzarla. Tu dici per pregiudizio non lo si fa, per che cosa? Non solo per pregiudizio, ma perché i medici in Italia ne sanno poco, se ne sa veramente poco di dell'utilizzo della cannabis. Dunque, la grande caro Parenzo, la grande proposta del senatore ex Five Stars, che sì, però su qualche cosa è rimasto anche Five Stars, Lello Ciampolillo, è utilizzare la cannabis terapeutica per vaporizzandola per aiutare i malati di polmonite, in questo caso le persone malate di coronavirus. È efficace sulle infezioni delle vie respiratorie. Che te devo dire? Tu che dici, ci mancava Ciampolillo, ci mancava la proposta rivoluzionaria di Ciampolillo. Quello che ho suggerito al ministro è di consultare i medici che si stanno occupando nello specifico di coronavirus. Noi così potremmo veramente salvare le vite. Ma tu mi stai dicendo, però stai esagerando, amico mio. Non puoi dire la cannabis terapeutica può salvare le vite di quelli malati dal coronavirus. Io l'ho visto su tuo padre. Vabbè, che ti devo dire? Mio padre quando avevo 82-83 però adesso va bene che uno non deve avere pregiudizi su nulla, però pensare che i medici negli ospedali perché la vendiamo in farmacia? Posso alleviare il dolore, sicuramente può alleviare, alleviare il dolore. Tuo padre si è proprio salvato. Ti devo dire? E allora salviamo quelli con la cannabis. Ma io ti dico. Non facciamo i medici, fai da te. Allora, io non faccio il medico. La cannabis, appunto. Io parlo su basi scientifiche. La cannabis non ha solo un principio attivo, non è solo un antidolorifico, è un antivirale, è un antidolorifico, è un antinfiammatorio, è efficace per trattare. Ma io posso essere anche d'accordo, figuriamoci. Ma allora, secondo me noi ci possiamo provare possiamo provare a salvare delle vite, c'è una cosa fondamentale. Vabbè, ho capito tutto, Lello, ti ringrazio. No, ma male non può fare, d'accordo, però adesso i medici saranno impegnati in altro. Aspetta un attimo, scusami. Per salvare le vite. Io penso pensi che per salvare le vite ci possa essere utile anche questo. Allora, un mio amico, ti ringrazio, ciao. Allora, un mio amico che lavora nelle forze dell'ordine mi dice... nelle esercitazioni di tiro questo si insegna, tornando alla vicenda di Napoli: i primi due colpi al tronco e il terzo alla testa. Non so cosa voglia dire, se è a vantaggio del carabiniere o della famiglia, però questo è. Fermi. La zanzara. Condannato a restare con la moglie è il destino di Giuseppe Polvirenti, un pregiudicato catanese di 50 anni. L'uomo agli arresti domiciliari in casa a Catania, ma esausto dai continui litigi con la moglie, si è strappato il braccialetto elettronico ed è corso nel carcere di Giave. Gli agenti hanno detto: voglio tornare in carcere, non sopporto più mia moglie. Qualche minuto dopo però è stato fermato dai carabinieri che lo stavano cercando, appunto perché si erano resi conto che si era disfatto del braccialetto elettronico. È stato giudicato per direttissima con te ai domiciliari, quindi è tornato a casa ancora in compagnia della moglie. Intanto la Fondazione Mauro da Mantova ci manda codesti files. Senti. Ti chiedo scusa, io conosco solo la Fondazione Prada. Senti. Ma questo è grazie agli americani e ai francesi. Loro hanno creato sta merda per punire la Cina per avere l'economia più alta di loro. Ma loro, se sono delle merde, meritano questo la Francia e l'America. Sono quelle due nazioni di merda lì i primi nemici numero uno dei cittadini mondiali, non la Cina. La Cina ha rispetto degli esseri umani. Gli americani e i francesi no, sono delle merde, compreso anche la Germania, che ha fatto un patto di acquisgrana. Che ha fatto una dittatura praticamente. Sti figli di puttana. Ma è lì. Poi ti spiego, senti questo. Non ho capito il patto di acquisgrana, però che cosa è? Non lo so. I francesi crearono Ebola alla fine degli anni 90, mi sembra, inizio anni 2000. Sì, dove li ha letti? In Ruanda, facendo gli esperimenti. Sappiamo benissimo che francesi e americani sono come i ladri di Brescia. Di giorno litigano e di sera vanno a rubare insieme. Si sa. La Fondazione Mauro da Mantova, che ringraziamo, raccoglie il pensiero mauriano, così dice. Il patrimonio, certo. Il patrimonio. Non sia mai vada perso, non sia mai. Non sia mai. Senti quest'altra cosa. Senti. Sono Basilio. I francesi sono ebrei. I vertici americani sono ebrei, 2 più 2 fa 4, vedete. Cosa voi? 4? Questa fa? È tutta una roba di America e USA. USA e Francia hanno creato questo casino. A chi lo dice? Il loro silenzio soldante lo prova. Quale silenzio? Non so se hai sentito la musica sotto, silenzio, no? Sì, la di musichetta sotto. Sì, sì, bellissimo. La fondazione Mauro da Mantova raccoglie il pensiero, no, sai mauriano. Cos'è? La cosa forse più inquietante non è tanto Mauro da Mantova. Non è tanto Mauro da Mantova. Mi scrive giustamente un amico di Pescara, Mauro Allispi, ad esempio. Mi scrive giustamente. Sì. Però voglio dire, non è la cosa inquietante sono quelli che raccolgono questi audio. Questi. Cioè persone che non sono normali neanche loro, che ascoltano gli audio di Mauro da Mantova. Li impacchettano e poi ti rimandano. Allora c'è un altro gruppo che si chiama Noi della Zanzara che pubblica alcune mie foto un po' abbacchiato, un po' diciamo praticamente sull'altalena da vecchio, cruciale nel 2020 per via delle fighe ormai tutte depilate, no? E mi mettono con la faccia triste, eccetera. Ma ragazzi, io l'ho detto più volte che la questione della figa depilata è drammatica. Cioè l'espansione al cubo, l'espansione ormai praticamente dilagante della figa depilata è un problema gravissimo. È un problema gravissimo per chi pensa semplicemente una cosa: che ci vuole in tutte le cose della vita, ci vuole personalità, ci vuole carisma. Una figa depilata non ha carisma, non ha personalità. Poi la spiegazione è molto semplice. Cioè alla fine dei giochi la spiegazione è semplice, tu hai di fronte due cose, una senza fare Parenzo, senza provocarti dei turbamenti, ci sono due cose, una con una personalità, l'altra anonima. Cosa scegli tu? Scegli la cosa che ha un minimo di personalità. Dall'altra parte vedi una cosa anonima o vedi una cosa super diffusa. Questo è il punto poi fondamentale. Poi mi rispondono però il mercato lo chiede. E ho capito, il mercato lo chiede. Ma quale mercato? Non è vero, è un inganno. Perché se si tornasse indietro, naturalmente, si avrebbero diversi tipi di personalità. E allora tu scegli diversi tipi di personalità. Di fronte a una scelta, poi da una parte c'è tutto uguale e dall'altra diversi tipi di personalità. Tu vai da quella parte. Ragazzi, è questo che penso io. Pino da Roma, vai, Pino da Roma. Anzi no, Roberto, prima Roberto, aspetta Pino, arrivo subito. Roberto dalla provincia di Salerno, vai. Allora io solamente volevo esprimere il mio stupore, il mio disgusto per questa trasmissione. Ah, molto bene, sì, molto bene. Ah, meno male, finalmente. La sodomia, la pedofilia e la femminicidio. No, però scusa. È la necrofilia, no, necrofilia. Questo francamente devo dirti la verità. Ce ne hanno detti di tutti i colori. La pedofilia, però la pedofilia è Feltri, è credibile perché in vino verità. Ma cosa ha detto Feltri? Scusami Roberto, dimmi. No, della necrofilia. Ma cosa necrofilia? Questo programma non può essere accusato di necrofilia. Può essere accusato delle peggiori nefandezze, Parenzo. Però necrofilia. Questo Roberto da Salerno è l'ennesima prova, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che a questa trasmissione chiamano solo degli sbandati. Vabbè, volevo dire al circondino che lui che vuoi fare saputello, ma io una sera l'ho visto per servizio di fronte all'ultimo dei pendiventoli giornalisti. Borgo Nuovo non ha saputo dire nemmeno una parola. Quindi Roberto difende. Quindi Roberto difende Borgo Nuovo. No, al contrario. È tutto chiaro. Al contrario, mi sembra. Roberto. No, non ha detto una parola. Scusami, Roberto, però io voglio capire. Innanzitutto, no, perché il circondizio fa il saputello nella latrina da cui trasmette senza contraddittorie, capito? Ma no, no, Roberto, io voglio capire da dove parli tu, da dove stai parlando in questo momento, da quale località, da quale zona, da quale ospedale, da un istituto sanitario. Sei in una zona perché hanno ucciso il suo amico che avrebbe fatto una lunga vita di santità. Ma chi hanno ucciso? Chi sarebbe? Chi hanno ucciso? Quel ladro di Napoli. E allora? E allora lui avrebbe fatto una vita di santità, amico di Parenzo, e l'hanno fatto fuori. No, non mi sembra, non avrebbe fatto certamente una vita di santità, non era avviato verso una vita di santità. Roberto, però la domanda resta: da dove stai trasmettendo, da dove stai parlando? Da una cantina, da una caserma, da un posto protetto, da un luogo con delle persone intorno con i camici bianchi? Parlando da casa, dove voglio parlare? E che ne so io, Roberto, quanti anni hai, scusami? 78. 78, si è capito che si era già capito. Mi che dispiace sei... che lei ascolti la Zanzara, mi fa un po' tristezza. Mi dispiace. Ma perché? Scusa, non ho capito. Non ho capito. Non ho capito di che cosa ci accusi, di essere un programma. Scusami, puoi ripetere un attimo? Un programma vomitevole. Sì, d'accordo, questo l'ho capito. Questo poi, non ha tutti i torti su questo. Poi che inneggia che cosa? Poi niente. No, hai detto che inneggia non so la pedofilia. Perché si vede che con Vinduccio, forse per guadagnare qualche centesimo di propaganda, perché per convenduccia pecunia non ho letto, come dicevano gli antichi. Può essere, Ronaldo. Non c'è dubbio, non ma credo, questo sempre così, nella vita è sempre così. Però Roberto, non ho capito le accuse di pedofilia, di altre cose, necrofilia e altre cose. Perché la propagandata, che cosa? Parlate sempre di questo, di ricchione e di puttana. Questo purtroppo... è il vostro argomento. Ma purtroppo c'è ragione. Ma perché? Tu soprattutto, Cruciato, sei il più grande esperto di fesi del mondo. Di fesse. Di merda. È vero. Questo anche è vero. Sì, ma no. Un esperto di merda. Però, è vero. Scusami, Roberto, ma non ho capito perché tu consideri, come hai detto tu, i finocchi, no? I ricchioni in questo modo, non ho capito perché li chiami... vabbè, i ricchioni mi fanno schifo e pena. E perché ti fanno schifo i ricchioni? Perché sono malati, poveretti. E perché sono malati questi ricchioni? Perché nel cervello si vede che qualche congiunzione è sbagliata, capito? Ma perché? Non ho capito perché questi famosi ricchioni debbano essere malati, semplicemente... sono malati. Ma non ho capito perché? Perché si inchiappettano, perché si inculano, scusami Roberto, dimmi. No, perché sono malati, quindi è un... disturbo della personalità. Ma adesso sei uno dei pochi ancora a pensarla così, per carità, è pieno il mondo, è uno dei pochi a esprimersi così, si potrebbe dire meglio. Mamma mia, questo non ho capito, Roberto. Vabbè. Ma perché? È chiaro che i ricchioni sono una potenza, quindi questo sono consapevole. Cioè i ricchioni sono una potenza, dici tu? Sì, sono una potenza. E poi? Basti pensare che non esistono libri di barzellette su tutte le categorie, tranne che sui ricchioni. Ma insomma, adesso, chi era detto questo? Adesso questo non lo so. Insomma, francamente, è pieno di barzellette. È pieno di barzellette sui proci, sui gay. Volevo pubblicare un libro di barzellette sui ricchioni. Gliel'hanno vietato, che sono una potenza politica e economica. Però scusa, io ho l'impressione che tu qualche volta l'hai preso anche in culo, Roberto. No, secondo me sì, un po'. No, no, no. Sei sicuro? Sì, che non hai avuto qualche trauma? No, qualche volta ho tutto il contrario. Ma sei sicuro che non hai avuto qualche trauma, no? No, questo l'hai avuto tu. Ma io non ho avuto nessun trauma, francamente, da questo punto vabbè, di vista. Vabbè, tu lo dichiari, come io posso dichiararlo? Sì, ma io non ho capito bene. Tu dici la verità, pure io dico la verità. Non ho capito bene, perché ce l'hai tanto con gli omosessuali? Da te ma perché mi fanno pena, mi fanno schifo e pena, perciò. Io quando li vedo con i culi danzanti e tutti in mezzo. Ma quale culo? Cosa dici? E con quelle... Con quelle? Niente, ma tu non li vedi quando fanno le sfilate, no? Sì, vabbè, vale a Gay Pride, sì. Allora me li vedi con i culi danzanti e che succede? Mi fanno schifo e pena. Ti fanno schifo e pena, vabbè, che devi fare? Sì. Poi chi è che ti fa scopare? Le lesbiche, per esempio? Non c'è una differenza? Mi fanno schifo e pena pure loro. Pure le lesbiche, cioè non tu... le piace. Sarebbe lo stesso video all'incontrario. Farebbero? Lo stesso film al contrario. Sarebbe la stessa malattia di incontrare. Sì, al contrario. Ma non capisco, tu per esempio non ti ecciti, non immagini di eccitarti qualche volta davanti a una scena di due donne che si toccano, che si leccano, no? Vabbè, questo lo fai tu. Tu niente, da questo punto di vista. Tanto te ormai... No. Ormai che cazzo te ne frega te. Ma tu da quanto tempo è che non pratichi, Roberto? Ormai... Vabbè, non sono cazzo che ti riguardo. Ormai è finita quella storia. Ormai è chiuso l'azienda, dai. Ormai e è finito. Da quanto tempo non pratichi? Ma insomma, qualche mese, qualche settimana. Vabbè, perché tu sei un onanista. Sì, questo è vero, sono un onanista. Però hai ragione, hai beccato, mi piace molto la masturbazione. Sì, è vero, Roberto. Ma ormai, anche quella tu non la pratichi più, è impossibile ormai. Vabbè, dai ragazzo, è passata. È passato 70 e passa anni, poveretto, sarà messo il cuore in pace. Dai. Ciao, vai a fare in culo, vai, ciao. E vado a farlo pure tu. Ciao. Ale, finisce tutto così, Sam. Vabbè. Emilio D'Avellino, dai Emilio D'Avellino. Sì, eccoci qua. Ah, c'è Locascio da mandare, aspetta, Locascio lo mandiamo dopo. Locascio che davanti ai consigli... Abbiamo chiuso. Davanti ai consigli di Barbara D'Urso su come lavarsi il culo, siccome lavarsi le mani, lui invece dai consigli su come lavarsi il culo. Abbiamo finito, devo dire, io ho una cena alle 21, fermo, quindi stacchiamo stai tutto. Stacchiamo la Emilio spina. D'Avellino, anzi no, Locascio, vai, Locascio. Bene. Allora, Adesso oggi io vi farò vedere come ci si lava il culo. Mamma mia. Si prende del sapone intimo, si mette nelle mani e si comincia a strusciare bene o con la mano destra o con la mano sinistra. Naturalmente non sulla chiappa destra o sulla chiappa sinistra, ma proprio nel buco del culo, onde evitare che il tarzanello di merda possa rimanere in secrezione e seccarsi e poi rimanere attaccato alla mutanda una volta tirata sulla mutanda. Cioè, però giustamente, siccome danno i consigli su come lavarsi, ci sono anche i consigli su come pulirsi nelle zone più intime, in questo periodo dove tutti danno dei consigli. Sentiamo come capire se uno ha fatto bene il bidet in conclusione. Per quanto riguarda il capire se avete poi alla fine sciacquato e lavato bene, ve ne accorgete la sera quando vi cacciate dei pantaloni. Mamma. Se l'uno davanti è giallo e l'uno dietro è marrone, vuol dire che il bidet non l'avete fatto bene. Ah. Al prossimo tutorial. Ciao. Lo cascio. Emilio Avellino, vai Emilio. Guarda, ti volevo tornare su Napoli, sul fatto di Napoli. Sì, dimmi. Io penso in sostanza che non tutti i mali vengono per nuocere, perché questo tipo di criminali ragiona in un modo molto semplice, in base alla legge del più forte, finché non diventano loro i deboli. Che cosa voglio dire? Che questo episodio sarà un monito, secondo me, un messaggio per qualsiasi teppistello, rapinatura e camorrista, che sarà o prepotente qualsiasi grande e piccolo. Ci penseranno adesso due volte prima di commettere qualcosa di fare gli questo, questo lo spererei, caro Emilio. Non hai tutti i torti, perché qualche volta, anche se in maniera inconsapevole, anche se in maniera indiretta, la mano dello Stato si deve sentire. Siccome a Napoli spesso, dice Emilio, e io do ragione ad Emilio, la mano dello Stato si sente poco, allora una cosa del genere, quando uno tenta di fare una rapina a 15 anni ci resta secco, può servire anche da monito. Però, caro Emilio, non lo so, perché ci sono tanti esempi nel passato che poi non sono andati verso questa direzione. Stava parlando Pino da Roma, che ho interrotto, forse comunque non abbiamo mai iniziato. Italiani. Fermo, Pino da Roma, vai. Eccomi, ciao. Io volevo parlare. Scusami Pino, però ne parliamo domani, ti richiamo, perché c'è Filippo da Napoli che leggo, abito sopra la zona dello sparatorio, ho visto tutto. Filippo, dimmi. Filippo, dimmi. Cusani, ciao, mi senti? No, sì, guarda, allora, siccome stiamo parlando, però scusami, siamo in conclusione, stiamo parlando di una cosa molto seria. Sai che ci sono anche le false testimonianze o le cose. Per cui o mi racconti una cosa che veramente hai visto, oppure ma io non ti voglio raccontare perché non ho visto, io ho sentito al massimo, non è curioso. Vabbè, allora se non hai visto, amico mio, che vuoi dire? Cioè, Ma infatti non voglio raccontare la mia versione, io voglio dire praticamente una cosa, che a me non mi spaventa tanto la sparatoria a Napoli, a me quello che mi spaventa ancora di più, porca puttana, il fatto che oggi siamo a fare le fazioni, io sto col poliziotto, io sto con quello, però è normale. È normale. Parenzo pensa che non sia normale, ma è normale. Ma certo che non è normale. Ma io certo. Che voi, tu e quell'altro fate tutte no, ma è normale. Detto. È normale che ma uno si divida. Si dividono tutti. Filippo, si dividono tutti. Fermi là, fermi. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono usciti voci che arrivano questa. Non c'è nessun caso di coronavirus.